sculato per una settimana intera. Non ero più io, Robè, che disturbavo la televisione, perché non c'ero. Quando sono rientrato nessuno più mi ha detto niente, se puoi immaginare le vie come stanno le cose, no? Certamente, già lo so. Ma io ho visto un progettino, quello sarebbe simpatico da fare. Vabbè, ce lo sono arrivato, adesso lo devo ricercare. Quando vai al mare ci sono molte volte questi ragazzini, ragazzotti, uno va molte volte al mare a prendersi il sole, a stare tranquillo, in pace, ci sono quelli con lo stereo a tutto volume, attaccavano la radio, vabbè adesso ci sono i CD, eccetera, eccetera, ma prima andavano la radio a manettone a rompere le scatole. C'è un circuitino semplicissimo di un trasmettitore larga banda che ti fa la 88 a 100-120 MHz su tutte le frequenze, manda soltanto spughe e ti manda un disturbo fastidioso, tipo un fruscio forte. Tu come vai a cercare la radio? Nell'arco di 100 metri questa roba funziona pochissimo, se lo metti dentro una valigetta, dentro una borsa dove c'è il coso, ci metti alimentato una batteria a 9 volt questa cosa. Chiunque nel raggio di, vabbè 100 metri non esagera, ma nel raggio di 30 metri, 40 metri, attacchi questa affare e ti manda un disturbo fisso da 80 MHz a 120 MHz, per cui nel radio private non le puoi ascoltare perché questo disturbo le schiaccia completamente. Ho capito, praticamente hai fatto un oscillatore, hai fatto, sì, e l'hai messo su quella frequenza che disturbava, ma che ne sa? Lei caprai, ok, signore, diciamo che chiamiamo i tocchetti, chiamiamo i passatempi, diciamo, dei tempi addietro, capito? Adesso per dire la tecnologia si è fatta più avanti, diciamo, sta usando dei sistemi più avanguardia, quant'altro. Ma nei tempi addietro non so se vi è mai capitato, diciamo, in macchina di poter passare, diciamo, tramite vicino a un cancello elettrico oppure tramite con lui il fotovendolo, con il carmofono, diciamo, che allora dare frutta e gli si entrava, diciamo, tranquillamente. Vabbè, poi oltre agli altri sistemi, diciamo, gli altri componentisti che, diciamo, che avete accennato. E quanto alla tecnologia, diciamo, la tecnologia ha fatto passi da gigante. Ok, riprendi giù. Ok, Alessandro, beh certo. E tanti esperimenti che si facevano dal ragazzo quando allora uno la mente fresca, tranquilla, e soprattutto il giovane, questi esperimenti si sono sempre fatti, no? Non era un problema. Io allora mi ricordo proprio agli inizi della frequenza, quando sono entrato in frequenza, proprio agli inizi nella macchina, avevo allora in quel periodo, se ricordo bene, non mi ricordo se avevo 124 o forse avevo 1100D, non me lo ricordo, la verità. E avevo fatto l'antenna del baracchino dall'antenna dell'autoradio, era di quelle antenne allora cannocchiale, no? Che io l'allungavo una certa lunghezza ed era per la radio, l'allungavo ad un'altra lunghezza ed era per il baracchino. Allora eravamo tutti pirati, no? Nessuno aveva concessione, io sto parlando del 1972, non è oggi, ma per dire, no? E si facevano tanti esperimenti e tante cose si sono fatte. Oggi non se ne fanno di queste cose, anzi io sinceramente parlando devo dire che è anche un errore secondo me, perché il baracchino dovrebbe servire anche e soprattutto a parlare di cose tecniche, no? Un po' come i radioamatori, diciamo, no? Che parlano quasi sempre di cose tecniche, eccetera. Invece noi qua non ne parliamo mai, vale? Ci vuole anche una persona che sia competente, che ne capisca un pochino, se no un discorso non lo puoi nemmeno fare. Però mi sono reso conto che la gente, se tu parli poco a poco di cose tecniche, addirittura abbandona la radio, non gli interessa, insomma, ecco, preferisce sentire altri discorsi, eccetera, capito? Avanti, vabbè. Certamente, infatti la radio è fatta anche per quello, si può parlare di tutto, ma molte volte sarebbe bene parlare anche di argomenti tecnici. Infatti ho fatto informazioni anche a te, diciamo, io ho sempre voglia di imparare di qualunque campo, soprattutto campo radioantistico, uno dei miei preferiti. Quando c'è qualcuno che mi può dare delle informazioni sono sempre il primo ad ascoltarle. Purtroppo non è sempre così, molte volte si fanno anche qualche discorsi di cose magari poco interessanti, ma è normale così. Avanti, Alessandro. Ok, sì, vabbè, è tutta una passione, diciamo, è portata una passione, ma chi ha una più strana, molte volte che può creare degli eventi così inspiegabili. Tu magari sei andato su con un'armonica, sei andato sulla frequenza di trasmissione di quel coso lì. Certa gente lo fa anche con scopo per divertirsi così nei telecomandi. Io mi ricordo, c'era un amico mio, c'era un orologio modificato e con un piccolo trasmettitore, una cosa del genere, andava al citamercato con questo orologio e faceva i pezzi dei televisori, si faceva cambiare i canali, la gente non riusciva a capire, ma non è cambiava, lui faceva finta di niente, ma per risate. Sì, ma tante cose si possono fare, ma io mi ricordo da ragazzino, mi divertivo, ad esempio io prendevo, che so io, una radio qualunque, o a valvole, oppure anche a batteria, poi negli anni successivi, eccetera, prendevo un microfono, lo collegavo al potenziometro del volume, lo collegavo della radio stesso e ci parlavo, e praticamente è come parlare al baracchino quando inserisci il PA, capito? La stessa cosa, no? Oppure lo mettevo nel foro, di quel foro di una volta, giradischi eccetera, e ci parlavo con quello, non era un problema, e tanti esperimenti si facevano, ma tutte cose che si sono sempre fatte, perlomeno chi ha la passione dell'elettronica, queste cose le ha sempre fatte, ma niente di particolare ad ogni modo, Oppure che so io, mi ricordo, questo è il primo periodo della tanta frequenza, ma avevo costruito un pezzo di compensato e ci avevo intagliato dentro on air, cioè in aria, no? Che vuol dire? E ci avevo messo dei led, ci avevo messo e avevo fatto il collegamento, come schiacciavo la potente si accendeva questa scritta on air, capito? Cioè vuol dire in aria, capito? No, beh, tante cose che sono fatte. Avanti, adesso. In quel caso diciamo che è mandato, diciamo, un segnale dall'input, diciamo, dell'illuminazione e quant'altro. Lo so, è cosa bella perché ho la passione a chi può fare, diciamo, di questa hobbistica. Solamente diciamo che qui da noi ci manca, diciamo, a parte che noi non sapessi, diciamo, dove fornirti, a parte, diciamo, queste schede componenti, diciamo, per poter realizzare queste piccole cosette. E poi, diciamo, quanto il tempo che ti manca, che cosa, e poi quant'altro, poi a partire soltanto, diciamo, se noi facciamo caso, se tu vai alla ricerca di un cavo, se vai alla ricerca di un connettore, se lo trovi, raramente che lo trovi, oppure te lo fanno operare, per dire, tre volte tanto quello che lo potresti trovare via internet e quant'altro. O sia per un'altra, diciamo, sia un attimino organizzata e poi magari ti smonta un attimino, però ripeto, chi ha la passione della radio si dedica ogni tanto, diciamo, a queste cosette qua. Ok, riprendi Roberto, io mi sento un attimino di mia va bene Alessandro. No, a me lo sai cosa mi piace, Giulio, poi sono molto appassionato, vabbè, di tutta una roba, di vecchi apparati di trasmissione tipo militari, cose Suplas militari, molte volte vedi delle cose, c'è un sito che si chiama Suplas, Radio Suplas, ma ci sono delle cose spettacolari, cioè dei potenziometri, dei commutatori, cioè non esiste più, di quella qualità lì non ne fanno più, vedi, uno che ci vuole costruire un commutatore antenna, si trova una di queste vecchie radio, di quei vecchi apparati che c'erano, quei commutatori col manopolone belli grossi, con le lamierine grosse, eccetera eccetera, adesso sono pezzi di plastica, al primo tiro si scioglie tutto, i potenziometri col tempo anche dei baracchini, molti baracchini iniziano a gracchiare, ma ci sono quegli apparati a norma militare, hanno dei potenziometri, degli slider, dei commutatori di qualità eccezionale. Sì, ma qualcosina credo di avere ancora io, adesso non so, qualche potenziometro a filo, per dire, di quegli antichi, qualche condensatore variabile anche, di quelli sempre grandissimi, addirittura a due tali, sia in FM che in AM, queste cose, se io vado su, sai quante cose ho, però ne avevo anche che ha eliminato tantissime, perché era troppo, non sapevo più dove tenere la cosa. Poi non parliamo di libri di elettronica, una volta ho riempito un cassone della Mondetta pieno di riviste tipo CQ elettronica, elettronica pratica, tutti questi giornali così che io compravo da quando ero bambino, proprio da quando ero ragazzino, sino a qualche anno fa. Poi non avevo più lo spazio, ma c'ho poca miseria, ma dove li metto tutti questi? E mi è dispiaciuto, però non sapevo più dove metterli. Un po' me ne sono rimate, già ne ho ancora un bel po', però diciamo che ho fatto il posto dove, nella scaffalatura dovevo mettere altre cose importanti. E allora, siccome abitavo in un'altra casa, la casa era piccola e non avevo posto, l'ho dovuto eliminare, tante cose, robe, oia, se sapessi quante cose. Addirittura avevo messo un'epita, il LED nella punta dell'antenna, quando schiacciavo la portante si accendeva la punta dell'antenna, si accendeva, tipo, la cosa è che non ho fatto, ragazzi. E ho passato tante di quelle ore, tu non hai idea di quante ore ho passato io e di quanti giorni di sabato e di domenica quando lavoravo sempre a tavolino e le ho detto di passione che ti sei presa, ah io che usciamo, io mi dico bene subito, mi ho finito e questo finito durava un'ora, due ore, poi alla fine uscivo naturalmente per accontentare anche la famiglia, però ho passato tante di quelle ore con il saldatore e con tutte queste cose. Poi non prendiamo i microfoni, i microfoni ne avrò fatto non solamente di quelli di legno ma addirittura la scatoletta di alluminio, compravo intorno agli 8-10 cm di misura, dentro ci facevo l'amplificazione, ci facevo e attaccavo al microfono originale, è come se fosse un microfono amplificato, usciva alla stessa maniera, senza nessun problema, capito? Oh, robe. Sì, ho su quella passione, stai sempre provando e riprovando, alla fine riesci sempre a inventare, a scoprire qualcosa di nuovo. No, bello quello che avevi fatto tu, quello che ho visto, quello di legno, quello è un'opera d'arte, da cesellatore, da, bello veramente. Quello un po' di tempo fa me l'ho regalato, quello che avevo qua l'ho regalato a mio nipote, con un nipote lì a Carboni abita, e anche lui al baracchino eccetera, mi si è attaccato e gli ho regalato, vabbè. Io ne ho un altro di microfono che a dire la verità era destinato a Emanuele Buonanima e ce l'ho sempre questo, però ci dovrei fare il circuitino, ci dovrei fare di nuovo e completarlo, ma non è che sono più entusiasta più di una volta, ormai sai le cose quando le fai tante volte poi, sì, le rifai magari dopo tanto tempo stesso, però a fare continuamente, no? Anche perché da quando sono qua sto facendo poca applicazione elettronica, no? Non sto facendo niente di particolare, capito? E una volta pensa, avevo un televisore vecchio, ho preso e gli ho cambiato il modo di ricevere, anzi diciamo che ce l'avevano tutti e due. Tu sai benissimo che in Italia noi abbiamo il PAL, no? come sistema di trasmissione. E cosa avevo fatto? Gli avevo messo un diodo, gli avevo messo a questo televisore al contrario di come quello solitamente che deve essere per avere la trasmissione PAL. E io sono riuscito a prendere la trasmissione SECAM tramite un interruttore, un commutatore. Commutavo e prendevo le trasmissioni in francese, o quelle francesi o quelle italiane, a seconda di come commutavo, capito? Allora sai, ma cos'è che non ho fatto? Ho fatto tante di cose che tu non hai idea. Ho fatto anche una volta, ho fatto un coso per la ricarica delle batterie, per sapere quando la batteria era scarica o quando era un po' scarica. E poi l'avevo regalato, mi sembra che l'avevo regalato a Giulio Murizio, se ricordo bene. Sì, a Giulio l'avevo regalato poi. Schiacciavo quello e sapevo, quando si accendeva il LED rosso mi sembra che era scarica, quando si accendeva quello blu o verde che fosse, allora non me lo ricordo più, allora vuol dire che era carica. E dopo era andato giù rimunito quello. Tante cose ho fatto, robe, ma ormai la pazienza non è più come prima, capito? Io lo so, poi prima ti arrangi adesso, fai prima comprare le cose, costa molto meno. No, il televisore SECAM ce l'abbiamo ancora, quando io parlo ero ragazzino che c'era solo il primo e il secondo canale, parliamo del 70, 71, 72, non oltre, forse non ci arrivava neanche al 72, un amico di mio padre mi aveva detto guarda che c'è la possibilità dipendere dall'acustica, ricevere il canale tipo France 1. E ci aveva messo un'antenna enorme, ci aveva messo un palo, un tubo d'acqua altissimo in alto con dei tiranti di fil di ferro, amplificatori ad alto guadagno e più questo, con questo sistema Steadicam che ci avevano, lo vedevi negativo negli altri televisori, c'era il coso video, il sincronismo video invertito rispetto al canale PAL, per cui con un televisore normale lo vedevi invertito tipo in negativo, mentre con questo televisore ne abbiamo ancora uno proprio acquistato e avevamo pagato una barca di soldi, mi ricordo quel televisore, perché ma i televisori costavano, bianco e nero a tubo, che col telecomando a filo che commutavi i canali, facevi il primo, il secondo e tre canali di memoria, cioè aveva due erano italiani, il terzo canale, cioè due italiani, diciamo, non aveva in italiano, però c'erano due televisori, uno a fianco all'altro. E infatti sul mobile ne aveva messo uno a fianco all'altro, però con quello francese poi ci faceva l'interruttore dell'accensione, questo telecomando a filo, si accendeva l'altro televisore e cambiava il canale, va bene, avevamo solo uno di canale, per cui non c'era bisogno, però c'era la possibilità di memorizzare tre canali. Ho capito, sì, sì, tanto è comodo, oggi invece vuoi vedere la televisione francese, ti compri il ricevitore, Steadicam, e vedi tutte le trasmissioni francesi, senza nessun problema, tutte cose, ma quello è, cioè andare a comprarlo non è che c'è soddisfazione, sinceramente, è un po' come per dire, fatti un microfono autocostruito o fatti un'antenna autocostruita, tu vai, te la compri, la materia che ti serve, però non è la soddisfazione, è autocostruire, capito? È quello il discorso. Avevo una radio a valvole, l'ho fatto delle regolazioni e prendevo, mi ricordo allora, il carcere della Sinara, quando comunicavano, non so, con esempio con la questura, eccetera, no? Io sentivo le trasmissioni dal carcere alla Sinara o viceversa, capito? Avevo manomesso un pochino le medie frequenze, avevo manomesso, ci avevo fatto qualche bobinetta, ci avevo fatto un po' allargata come spire, eccetera, ed entravo in quella frequenza, robe, ma cosa è che avevo fatto? Cioè, dicendo, boh, io ero malato allora di coso, di passione per l'elettronica, ero proprio malato, per me, aspetta, l'elettronica era, cosa vuoi che ti dica, ecco, era come il pane quotidiano, capito, robe? Sì, lo so, poi l'elettronica, io magari avessi avuto la possibilità di impararla, diciamo, come vorrei io, perché talmente sono appassionato, però purtroppo ci vuole qualcuno che ti insegni certe cose, diciamo, le cose elementari per andare avanti. Mi sarebbe piaciuto imparare a costruire, cioè come costruzione di cose. Io ho un amico che è un genio dell'elettronica, però è un menefreghista, questo si ripara qualunque cosa, costruisce, è bravissimo meccanicamente, cioè di cose meccaniche, elettromeccaniche, cioè c'ha una cultura esagerata, dico, a parte che ha anche studiato all'INAPI, però era di male sabbiato il professore, se non di più per certi versi, era proprio un genio, purtroppo non va a capo, infatti ho detto, lui l'ho sempre detto, se tu avessi avuto la testa, saresti stato milionario per quanto sei bravo, perché ha una intelligenza questo ragazzo, però è disordinato, a questo gli piace i divertimenti, altre cose, perché ha 1.000 lire e se ne spende 4.000, fissato col gioco, le cose strane, e non riesce a tenersi in tasca neanche 1.000 lire, ha sperperato l'impossibile, questo era di buona famiglia, il padre, diciamo, l'ha adottato, diciamo, non buona famiglia, nel senso che il padre era benestante, gli ha lasciato un sacco di soldi e si è mangiato tutto. Ho capito, sì, sì. No, io ne ho fatto di belle cose, io ho sapessi, anzi alle volte, molto spesso veniva anche un amico, un certo Giancarlo Pasolino, che in frequenza si chiamava Tucca Tucca, si chiamava, e lui aveva anche fatto un corso nella radio elettronica, tanto è vero, è bravino, mi parlano Malachini, soprattutto è bravino, veramente bravo. E con Giancarlo abbiamo fatto tante di quelle cose che tu non hai idea, solo che cosa vuoi, poi alla fine, siccome lui è geometra anche, no, di mestiere, il suo mestiere è quello, siamo diventati sempre più adulti e chiaramente non essendo più ragazzi ci è mancato anche quell'entusiasmo che ci portava a fare certe cose, perché giustamente se non hai entusiasmo e se non hai applicazione proprio seria, eccetera, stai tranquillo che non riesci a realizzare niente, anche perché è talmente vasto il campo dell'elettronica che uno perde la testa, proprio perde la testa, veramente. poi abbiamo cominciato anche a venire fuori nuovi tipi di materiale, eccetera, e dunque ti dovevi vedere il giornale, tutte queste cose, perché non è così, sembra così, ma il radio tecnico è più o meno come un dottore, deve essere sempre aggiornato, se no non stai al passo con l'elettronica o capito? Io mi ricordo, anche Emanuele me lo diceva, dice io sinceramente studiare non ho più voglia, non è ora, e dunque faccio quello che posso fare e vado avanti in quel modo lì, ma oltre no, perché ormai ho la mia età, dice non ho più voglia, poi da vicino ci vedo anche poco per leggere eccetera, e allora quando non posso chiudere basta, e così ha fatto infatti. Sì, ma questo è una brava persona, Emanuele, lo sentivo in radio, una bellissima modulazione, sembrava il pontefice quando parlava, me lo ricordo benissimo, mi dispiace, mi ha detto che è morto qualche anno fa, una bravissima persona, molto educata e pacata. Sì, questo sì, non ci sono dubbi. Sì, infatti da me è venuto per anni, veniva tutti i giorni praticamente, perché accompagnava la nipote a scuola, che frequentava la scuola del Sacro Cuore, eccetera, frequentava prima gli elementari, poi l'altra che c'è a fianco lì non so che cosa sia, boh, forse sono le medie, boh, non lo so, insomma ha fatto per tantissimi anni, ma poi anche quando la ragazza aveva smesso di studiare lui veniva ugualmente sino a un po' di tempo prima che si ammalasse, veniva sempre in bottega, no? E abbiamo fatto tanti discorsi con lui, devo dire sinceramente che tante cose me l'ha anche svelate, perché lui essendo del mestiere chiaramente ne sapeva sicuramente molto più di me, non ci sono dubbi, ma per dire no, e lui se sapessi, la testa però a un certo punto non c'è più spazio dentro la mente di un uomo o robe, allora bisogna anche smettere. Posso? Ma quel microfono che stai dicendo tu, questo è in legno, manca solo il circuitino, cioè ma come è involucro a posto? Allora c'è un circuitino autocostruito, anche la valvetta autocostruito, tutto quanto. Avevo comprato la placca ramata, no? E ancora ce l'ho in bottega, avevo comprato l'acido che ci vuole adatto per fare la basetta, e c'è una penna, no? Come un tipo di pennarello, tu lo fai adesso per disegnare la pista che ti occorre sulla basetta ramata, la metti, poi questa basetta la metti in ammollo dopo che hai disegnato con questo pennarello particolare, no? Che ti danno, che adesso l'ho perso anche, non mi ricordo, infatti l'altro giorno stavo cercando per fare la basetta per il nuovo microfono che ti stavo dicendo e non ho trovato la penna, me la dovrò comprare di nuovo. E dove è disegnato ci rimane il rame, dove non è disegnato l'acido se lo mangia il rame, capito? Sicché rimane la pista che rimane bella, pulita, liscia, senza nessun problema. Poi con la colonna mettevo la punta da un millimetro e facevo tanti forellini, facevo nella pista che rimaneva lavata e da lì, si facevano i collegamenti, capito? E si fanno i collegamenti lì o robe. Sì, l'ho fatto anche io, molto pericoloso usare con le mani, perché ti bruciavi le dita, non ricordo, con l'acido la mano. Sì, il pennarello serve per proteggere, era uno strato protettivo al rame per non farlo attaccare dall'acido. Sì, l'ho fatto tantissimi anni fa anche io quella cosa lì. Hai detto anche quei circuitini con i forellini dove metti gli spezzoni del coso, del rame, ti davano, riuscivi a incastrare, facevi i ponticelli, per cui evitavi anche quelli sperimentali, diciamo. No, ma questo che stai dicendo tu, io non l'avevi fatto vedere. Uno in costruzione, però me lo ricordo vagamente, era l'imitazione del Tarne, così? Sì, l'esatta imitazione del Tarne, sì, infatti, oppure del più 4, più 5, è uguale, come modello è uguale, è la stessa cosa, no? Non ci sono nessun problemi. Come protezione della capsula, ci mettevo, presente c'era i filtri della caffettiera, quella che si mette sul fornello a gas per fare il caffè, c'è un bottino sul tattolo, no? le tagliavo e mettevo, mi rimaneva la lamella solamente, folata, come il Tarne T3 praticamente. che diventava, capito? Diventa così, perché lo ritagliavo quel pezzo di alluminio, solo alluminio, e lo utilizzavo per coprire la capsula, essendo forata e va più che bene, capito? Sì, infatti è molto simile a quello della capa, io ci ho qua davanti il danno più, cioè è molto simile. Dimmi una cosa, e come hai fatto tu a farare, Giulio, ma l'hai fatto in colpo unico o in tre pezzi quel microfono? Cioè c'è la parte tonda dove c'è la capsula, poi c'è il braccio e la base, l'hai fatto in tre pezzi per fare il fuori, per passare il filo, cosa hai fatto? Non l'hai fatto in colpo unico, in tre pezzi a incastro, così? È fatto in tre pezzi, certo, è fatto in tre pezzi, c'è il bicchiere dove ci va la capsula, poi c'è il tronco, c'è, e poi c'è la base, capito? Lì è svuotata, ci mette il circuitino, nel tronco invece foravo di parte in parte, foravo e poi modellavo, no? Cioè prima il pezzo lo facevo quadrato, lo facevo, no? E allora foravo, se la punta non arrivava da una parte all'altra, perché lo facevo dritto proprio nella bucatrice della macchina, no? Foravo prima da un lato poi dall'altro, per modo che si raggiungesse il buco, capito? E dunque mi risultava anche perfettamente in linea. Allora all'interno prima ci mettevo un pezzo di tubo in rame, ci mettevo, quello serviva come schermatura, serviva infilato dentro, però poi successivamente non ne avevo più messo, perché che cosa succedeva? Succedeva che quando aumentavo il volume c'era un fischio, c'era. Allora ho buttato per questo filo di cioè questo tubo di rame, avevo buttato e dunque mi eliminava il fischio. Però poi invece con l'aggiunta di un condensatore sono riuscito a eliminare anche quel difetto e dunque non ho utilizzato più il tubo di rame, capito? Oh, Robert. Sì, lo so, non si metteva il bobinetto, era lo stesso problema anche su altri tipi di microfoni, infatti c'avevano quelle VDK200, si mettevano le bobinette o questo condensatore, adesso non mi ricordo da quanto, ce l'ho scritto da qualche parte, la modifica da fare. E un'altra cosa, il coso le faccio via al tornio, la parte diciamo dove c'era la membrana, il bicchiere, col tornio lo lavoravi come? Sì, e lo facevo a tornio, anche col trapano riuscivo a farlo, non era un problema, perché prendevo un pezzo di legno quadrato prima e ci facevo una specie di perno, tipo che so io, una punta per il trapano, capito? Lo arrotondavo così e lo mettevo, allora dopo che l'ha fatto così lo snellivo, questo pezzo ho smussato in discesa, allora la parte più grossa era la parte di dietro che è più sottile, no? E gli davo un paio di colpi col pialetto eccetera, poi lo mettevo nel trapano, mi girava il trapano, lo fissavo alla borsa del banco, prendevo la carta vetrata di quella a nastro, no? Una volta che girava ce l'appoggiavo, un pezzo di nastro, non so, 50 cm di carta vetrata, e l'appoggiavo, mentre giravo me lo torniva, capito? Senza bisogno di andare al tornio, perché al tornio io non ce l'ho mai avuto, perché intanto è un altro mestiere, tornitore è uno, il falegname è un altro, è diverso. E dunque li facciamo così questi bicchieri, diciamo, capito? Mio cognato si sta appassionando di coso, di questo lavoro, lui si è preso un piccolo tornietto da coso, in tagliatore, l'ha preso dal cugino, il cugino, non so adesso, vabbè, ma per una tarifa lavora molto di più, questo costruisce portachiavi in radica, queste cose qua, ma sta anche esportando fuori in continente, fa delle tipo cofanetti, con materiali quelli pregiati, con tutte le rintarze, cose carine, ma fa dei bei prodotti, sono apprezzati, li usano nelle gioiellerie, per esempio quando lo devono abbinare a un orologio, una cosa del genere, li mettono queste scatolette qua, oppure devono metterci un gioiello, qualcosa del genere, lui costruisce queste scatolette qua, belle, con tutte le finiture spettacolari, e poi fa questi portachiavi belli in radica, in legno duro, diciamo, fatti con un certo, con una certa rifiniture a lucido, a specchio, ci mette il cavettino d'acciaio, tipo quelli, il cavettino con il trecciato d'acciaio, col bulloncino, ne fa di tutti i tipi, ma sono cose veramente carine, mi dirai non è niente di complicato, perché sono caramelle queste cose, però è iniziato così a livello di hobbistica e qualche soldino se lo sta facendo. Ho capito, no, vabbè, io ho fatto le intarsiature, le ho fatte sempre per professione, queste cose. Anche ultimamente ne ho fatto uno, non so se tu conosci Raffaele Busia, uno che una volta giocava, mi dice lui c'è ton padre, te lo dice lui chi è, perché giocava proprio nel nostro periodo, quando giocava ton padre, giocavo io e giocava anche lui, questo Raffaele Busia, che abita tra l'altro vicino a te, da quelle parti, abita, esattamente, sai dove? Allora, i vigili urbani, c'è il semaforo, prende la strada per andare verso il grattacieli del coso, come si chiama, il quartiere Satellite, come lo vuoi chiamare, dove abita praticamente nella zona di Claudio, là, in quella zona lì, però abita in quella strada praticamente del coso. Una volta dei Culurgiones c'era lì, che faceva il Culurgiones, pasta fresca, sarda, eccetera, no? Proprio in quella strada. Quasi alla fine per prendere la discesa per imboccare appunto la strada per andare ai grattacieli dove abita Claudio eccetera, capito? Abita lì, ma l'ho fatto da poco, sarà un anno e mezzo fa, 2 anni fa, non di più. Ho fatto questo lavoro tutto intarsiato, un tavolino, e ho fatto delle cose, tavolini con scacchiera, tavolini con la rosa dei vini. Non è che non ha giovato, tavolini con dei disegni di costumi sardi, cos'è che non ha giovato? Poi ci lucidavo sopra e quello del disegno rimaneva sotto tranquillamente senza nessun problema. Sì, non lo so, se è molto bravo, non c'è bisogno di pubblicità, lo so, può già essere conosciuto, quelli bravi già si conoscono. Io c'ho anche un mio zio, se probabilmente lo conosci, Vincenzo, che c'ha il mio cognome, come falegname, anche lui ho visto qualche cosa già la costruisce. Adesso vabbè, abbandonate le persone, ci sono i figli, ma anche lui se la cavicchiava. Sì. Ormai lui è tanti anni in pensione, prima di me in pensione è andato, ti puoi immaginare. Ma c'è il figlio che sta sempre lavorando, niente ne sai. Guarda che non passa ancora da sono anni. C'era il figlio che c'era al laboratorio, credo che c'abbia ancora attore, il figlio più grande. Poi c'è, come si chiama l'altro? È mio cugino, non mi ha messo il nome. Che c'era giù, dove c'era il mercato nel grosso, c'è presente, l'altro figlio. Come si chiama? Un voto di memoria, cugini di secondo grado siamo, però non mi ricordo il cognome. Attore? Non me lo ricordo. Non lo so nemmeno io, anche perché i figli li conosco solo di vista, ma non di nome, è la verità. Vincenzo già lo conosco molto bene, ha più o meno la mia età, eccetera. Sì, che già quello sì, non ci sono problemi. Sì, no, perché l'ultima volta che sono passato, non mi ricordo sinceramente se c'erano ancora, l'ultima volta che sono passato in quella strada così in discesa, e aveva due magazzini, uno dove ci lavoravano con le macchine, l'altro più giù dove forse montavano i lavori, non lo so, forse beniciavano, non lo so, però mi era sembrato un vuoto, che non ci fosse quasi niente. C'erano le macchine, basta, ma segni di lavoro non ce n'erano. Sì, già lo so. Poi, ai tempi di mio padre c'era, non so se l'hai conosciuto, penso di sia lui, quello Ettore, l'hai conosciuto? Lo vedo tutti i giorni lo vedo a Ettore. Siamo vicini, no? Lui cosa abita? 20 metri dalla mia bottega, di casa. E poi abitava un pochino più su di cosa, come falegnameria, un pochino più su di Giulio Molito. Ma ha chiuso da un bel po' di tempo, lui non sta facendo più niente. C'è Massimo, il tranviere, che fa di tanto in tanto qualche lavoretto quando ha il permesso, cioè quando ha le ore libere, perché fa i turni, fa no, col tram. E tanto in tanto qualcosina se la fa, però la falegnameria c'era sempre. Solo che il magazzino non è suo quello, e dunque paga l'affitto, non so sino a che punto mi convenga tenerlo, non è come me, io il magazzino è mio e anche se non lavoro non me ne frega niente, tanto le macchine sono lì e ci rimangono perché non devo pagare l'affitto e nessuno mi può chiedere niente, capito? Ecco, ti spiego, io ho sempre sentito nominare nella storia della vita, da quando ero piccolino, ho sempre sentito nominare per le afferratori, perché diceva una persona fuori dal mondo, dice, una forza della natura, dice, però non avevo mai avuto il piacere di conoscerlo, di una volta me l'avevano fatto vedere in vita, però da poco è venuto in officina, ha fatto, ah, questo è il famoso Ettore, il soprannome non lo diciamo perché è troppo conosciuto, però parlando con gente che lo conosce bene, dice che era anche un bravo falegname, è vero questo? Ma sorvoliamo su questo, adesso non ti voglio dire né bravo né cattivo, però era, sì, in effetti era così, aveva il vizio di arruffarsi molto, anche perché beveva e anche perché si è giocato anche le mutande, si è giocato, porca miseria, lì mi ricordo da Quintino, lì in Piazza Toro, quando esisteva il bar di Quintino, lui era lì sempre giocando a carte, insomma, però ha lavorato e devo dire che ha lavorato e ne ha fatto i lavori, e tanti anche, ha servito tante imprese, non ci sono dubbi, tant'è vero il figlio, il posto l'ha ottenuto proprio perché avendo lui conoscenza con un'impresa un po' importante di Sassari, gli ha messo un po' di impegno e è riuscito a entrare nei tram, a differenza di mio fratello che ha guidato il tram per 11 anni e 11 anni pompiere, faceva 3 mesi di pompiere e 3 mesi di tranviere, no? Beh, in 11 anni non è riuscito a occupare né un posto né l'altro, te puoi immaginare. Ci vuole, se non c'è la spinta, se non c'è qualche politico che ti dà un bel calcio con la scarpa un po' pesante, non c'è niente da fare. Lui invece ci è riuscito proprio perché aveva questa impresa, magari gli sarà costato qualcosa, sicuramente, come lavoro gli sarà costato sicuramente qualcosa, ne sono più che convinto. Questo ha detto del figlio di Ettore, poi le cose loro sono loro, non lo so io. E vabbè, purtroppo. Ecco, sembrerebbe che le cose stiano un po' modificandosi per questo fatto dei calci del sedere e le raccomandazioni, però non si potrà mai arrivare a zero, a eliminarle completamente, perché sempre qualcuno ci avrà qualche parente, qualche interesse, non dico magari un parente lontano, ma qualche figlio da sistemare ce l'avrà sempre. Purtroppo gli italiani siamo fatti così e la mentalità nostra è quella, cercare sempre di intrufolare qualche parente in tutte le attività. Prego. Che avanti. Ciao, auguri a tutti, Fabrizio da questa parte. Ciao a tutti. Anche la questa trasmetta la piazza San Pietro, Fabrizio. Ciao, ben sentito, tanti auguri anche a te. Aspetta che devo aver toccato il tuo microfono, allora aspetta. Così va meglio. Fabri, ti dico il mio coso, vabbè l'avrò detto 50 volte, a me l'ecco, e manco se me lo regali e mi dici ti do 10 euro ogni volta che trasmetti, non ne uso, a chi non mi piace, poi vedi un po' tu, c'è una bella voce, una bella modulazione, sporcarla con l'ecco, lasciamo perdere, ti rilascio il microfono a Giulio, avanti Giulio per Fabrizio. Ok, ciao Fabrizio, sono il tuo ben ascoltato, dopo un bel po' di tempo, anzi diciamo che ti faccio anche un piccolo appunto, non sei entrato più il 27, ripeto, tu fai quello che ti piace, fai che piace, ma che è altro, però non ci abbandonare così Fabrizio, intanto ti faccio i migliori auguri di Natale, poi tutto il resto verrà in seguito, avanti Fabrizio. Ciao Giulio. Sono andato a farvi gli auguri, lo so, ma l'attività è molta, dall'altra parte adesso infatti in 80 metri che stavo chiacchierando, ho acceso, vi ho sentito, allora sono andato a farvi gli auguri, quindi buon Natale, eccetera. Ciao Giulio, come puoi ben sentito? Oh, Roberto sta gracchiando la radio. Lo so, purtroppo. Questa c'ha dei problemini, già l'abbiamo visto, sembrerebbe certi momenti che va bene, si stabilizza e poi di lì. Questa adesso quando c'ho qualche minuto di tempo la spediamo su e vediamo un pochettino e gli facciamo fare una revisione generale. E un falso contatto, non è niente, non è un falso contatto per approvarlo. Magari una fesseria, va bene. Cosa ti volevo dire? Cos'è che stai utilizzando? Cos'è un Saturno e qua? No, un barattino normale col microfono Proxen. Guarda che deve essere, me l'aveva fatto uno, lo stesso difetto che sta facendo a te, solo c'ho la memoria corta ed era un falso contatto, sto cercando di ricordare anche dove, sulla scheda e l'ho riparata, e c'era proprio un falso contatto, l'ho trovato anche qualcosa su internet. Quando ti viene in mente me lo dici, ma così vediamo un pochettino, perché la cosa strana che me lo fa anche il recisore, arriva un tipo scarica e fa click click, cioè un rumore così, probabilmente lo fa anche in trasmissione, io me ne accorgo da quando sto ricevendo i busti segnali, in qualche momento mi arriva questa scarichetta, tipo quando c'è un temporale lontano, una cosa del genere è il difetto che dici, così? È un falso contatto, non è niente di più, un falso contatto. A questo falso contatto non pregiudica mai tutto il discorso che abbiamo fatto l'altra volta, Fabri, perché poi una volta che si stabilizza all'inizio per dire l'accensione rimangono di nuovo lampeggiando, quelli aspetti qualche minuto e poi ritorna tutto quanto a posto, inizia a dare nuovo la potenza, l'apparecchio, però all'inizio dà colpo, io accendo, vado a dare potenza, mi dà per un attimo la potenza e poi si spegne, poi di nuovo do potenza e si spegne. Io sto pensando che sia magari una cosa proprio stupida, dovuta anche a questo discorso che mi stai dicendo tu, collegato con altri circuiti, magari degenera la situazione. Credo che sia la scheda di sotto. Io comunque ci ho tempo, perché io del 440 ci ho da tutti i pezzi, da tutte le schede, io di alcuni 440 ne ho preso anche da poco uno, l'ho rivenduto, più di uno, quindi me ne rimane uno, me ne rimane l'altro. Lì la cosa più cosa è cambiare le schede una alla volta, e quando la trovi capisci dove il falso contatto e ci lavori, fai molto molto prima. Fabri, se te la senti io posso anche darlo a te. E vediamo, io già ci sentiamo, già lo possiamo vedere, lo possiamo vedere, sono stupido queste schede, ma già possiamo vedere, sto montando l'antenna nuova, mi stanno dando problemi e quindi ci sto lavorando, anche oggi stavo lavorando, e come finisco lì che metto a posto le antenne, che metto a posto la direttiva, sto montando che mi stava creando problemi, come riesco a terminare lì così possiamo sentire. Sì, sì, non c'è problema, già lo sai. Tra l'altro mi posso arrangiare anche con un'altra cosa, non ho problemi. Ultimamente c'è un'altra cosa. Cioè, un'altra cosa discolta. Tornando a noi Fabri, c'era un amico che stava cercando i 1200, li conosci della Tecca sui piatti, tu che sei sempre in mezzo se non sbaglio. C'è qualcosa in giro per tu? Dove trova? I 1200 quelli della discoteca, già me li ricordo. Sto guardando qua un po' su subito, cacca, ma ci sono prezzi da paura. Stiamo parlando di 750 euro la coppia, cioè gente è pure di testa. Mi sembra che costavano 1.200.000 nuovi. Sì, sì, 1.200.000 li pagavi, poi c'era la serie euro, diciamo anche, avevano anche qualcosina di più, però prezzo medio di mercato stiamo parlando intorno ai 250-300 euro, ma devono essere perfetti. E l'uno, questo da chiedere 750 euro, guardandole già così non è che mi piacciono molto come aspetto. Io ne avevo visto due a 250 euro l'uno, erano perfetti, nuovi nuovi, e l'ha preso un amico. L'ha trovato, una roba da casa, infatti io mi ricordo proprio il prezzo, costava proprio 1.200.000 l'uno costava. Adesso mi ha detto se si trova, ma quando ti fanno pagare 750 euro per due mi sembra un po' troppo. Io. Avanti Giulio, riprenditela. No, stavo parlando un po' tutta la serata di sperimentazioni, non so se tu sei entrato adesso Fabri, però ci siamo già, penso, qualche oretta abbondante. Io vabbè, qua la radio ce l'ho accesa da 3 ore e 27 minuti, non è che stavo parlando per 3 ore, però c'era la radio in accensione, prima c'era Massimiliano, poi è entrato un attimo Natalino, poi è entrato Alessandro, diciamo, almeno un paio d'ore ci sono sicuramente in effettiva trasmissione. E abbiamo parlato un po' di tutto, si è parlato anche della Radio Galena, lui l'ha sperimentata di persona, quella che è andata a me, io l'ho avuta già bella che pronta e non ho avuto ancora il piacere di ascoltarla perché stavo guardando adesso, c'è un variabile con le lamelle un po' mezzo rovinate, vorrebbe sostituito, poi abbiamo parlato in generale di altri argomenti tecnici, lui ha costruito un microfono, più di uno di quei microfoni imitazione Turner come configurazione, fatto totalmente in legno, non so. Ce l'hai visto ed è una cosa bellissima anche come arredamento oltre che utilizzo. Te l'avevo visto ma ne ho sentito parlare. Poi nel campo suo può dire la sua. Avanti nuovo Giulio. Ok. Sì, a proposito di Radio Arena, ti volevo dire anche, Robè, se tu lo metti in un amplificatore, puoi ascoltarlo senza bisogno delle cuffie, tranquillamente, senza. Tu verrai, intanto allarga le lamelle, non fargli toccare insieme, poi vedi un po' se funziona, se non funziona, mettiti a farlo di nuovo da capo, perché è una soddisfazione, è una stupidata, però è una soddisfazione sinceramente, perlomeno perché è appassionato di applicazione elettronica. Va bene, Fabri, tu ci stai abbandonando, dai, ma come mai, Fabri, non siamo più simpatici noi della 27? No, ci mancherebbe altro, come spiegava poi tipo un altro, giù. Il problema è molto semplice, a parte il tempo che puoi dedicare alla radio, a parte in questo periodo sto rimettendo tutta la stazione nuova, sto rifacendo tutto, quindi sto montando anche delle antenne molto, molto importanti e mi sta portando via tempo, ho dovuto costruire il traliccio, l'ho costruito io, ho costruito il carro dell'ascensore, eccetera, eccetera. Poi sono arrivate le antenne, le stiamo montando, sono enormi, sono delle cubiche, sono a 70 metri quadri a pannello, immaginate un po' come antenne anche quella per 40, e quindi mi sta portando via tempo, mi sta dando problemi, non sta risuonando bene, quindi ci sto lavorando. Primo. Poi quello che dicevo, purtroppo quando hai la possibilità di spaziare su una marea di frequenze, non puoi fare sei punti, alla fine non è che c'è 24 ore, c'è magari quell'oretta al giorno, ora e mezza al giorno di radio, e quindi riesci già a fare attività radio, riesci a farne un decimo di quello che voglio fare, quindi molte volte ogni tanto accendo, non c'è nessuno, quando va bene accendo che c'è qualcuno, magari entra a fare un saluto, però stai facendo altre attività e molte cose da fare, se ti piace fare il radio, non per quello. Poi adesso vi ho sentito, ero in 80 metri, ho salutato e sono entrato giusto per fare gli auguri, dai. Riprendi Giulio. Ok, Fabri. No, anche perché l'altro giorno stavamo parlando, diceva, e dagli amatori, ragazzi, appena che hanno la patente abbandonano la 27, ma non credo, perché di tanto in tanto già si fanno sentire ugualmente qua. E infatti abbiamo messo in evidenza la presenza di Claudio, di Alessandro, eccetera, che loro non mancano mai, nonostante che anche loro sono gli amatori, hanno altre frequenze da poter modulare, eccetera. Vabbè, ripeto, Fabri, non è che ti sto per carità, ti devo obbligando, ma siccome so che sei una persona come ce l'è, mi fa piacere di tanto in tanto sentirti, perché la 27 sinceramente sta proprio morendo, morendo definitivamente, e a questo punto se ognuno di noi si allontana così dopo aver conseguito la patente, allora è veramente la fine. Va bene, comunque non voglio io obbligare nessuno, ci mancherebbe altro, siamo tutti adulti, ognuno è padronissimo di fare quello che vuole. Va bene, avanti, va bene. Sì, anche io sono in costruzione, sto modificando un'antenna con i parametri, mi è venuto l'altro giorno in officina Marco, dato la vera ancora di amatore, mi ha dato delle dritte, poi ho preso qualcosa da internet, devo costruire una serie di elementi. Lo sapete che ho chiesto a tutto il mondo, a parte a letto dove ho trovato delle antenne sino a 14 elementi, 88-108, non trovi niente in Italia più di 2 elementi. La faccia va placcata, una 5 elementi e non è più in coso, in produzione da diversi anni, ho chiesto in magazzino, tramite Torino GBC che lui ha contatti con tutta Italia, non ce n'è da nessuna parte. Alla fine modifico un'antenna che sopra la 27, l'accorcio come dimensioni, eccetera, eccetera. E mi devo metterla a costruire. A me non ritorna male la vecchia costruzione delle antenne. Ho capito, vabbè, sì, beh, allora a questo punto se hai la passione di costruire antenne ti conviene comprarti uno strumentino per poter fare le antenne, c'è uno strumento, lo stavo vedendo l'altra volta Luca Flipper, lo stava vendendo lo strumento per fare le antenne, che era un apparecchio molto importante perché ti dava la risonanza, la lunghezza giusta che tu costruivi, eccetera, eccetera. Va bene, ognuno di noi cerca di fare qualcosina, perché è giusto anche così, almeno passiamo il tempo in qualche maniera diverso da quello che è il solito lavoro, eccetera, tutti i giorni. Va bene, Fabri. E avanti Break il Salvatore, ciao, buonasera Salvatore. Buona vita, saluto e gli auguri a tutti quanti coloro che stanno modulando in questo momento, salutori. Ciao Salvatore, ben sentito e tanti auguri anche a te, avanti Fabrizio. Auguri intanto, poi c'è Roberto e poi Fabrizio, non so se c'è ancora, se è rimasto in quel lì, che è rimasto lavorando, riprendi e vai per chi vuoi. Ciao, saluto anche attimino, è giusto la radio, intanto sono fatto perché sta uscendo male di radio. Allora ti va bene. Vabbè, io forse ti ho passato un pochettino quando stavo parlando, Giulio, che stai facendo gli auguri anche tu, io per un attimo ho parlato sopra di te, non so se ti abbia scavalcato o mi ha scavalcato tu. Comunque rinnovo gli auguri a Salvatore, buon tutto, buon Natale, buon anno, se non avremo modo di risentirci. Avanti, Salvatore, stavi uscendo male, infatti ti volevo avvisare che avevi problemi di corso, di emissione. Vediamo un pochettino. Ora ditemi se vado bene. Mi fa un passaggio un po' più lungo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, forse diminuisco un po' del mic. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok, così dovremmo esserci. Abbastanza, ti sei avvicinando, però c'è una leggera saturazione, come forse sollevi un pochettino il tono della voce. Allora diminuiamo il mic un bel po', così? Così sembrerebbe di no. Vediamo intanto se è stato Fabrizio, così vediamo cosa è successo. Fabrizio, ci sei battuto un colpo. Ciao Salvatore. Ciao Faber, ben sentito. A che punto sei con l'installazione? Incasinato, problemi di risonanza. Ma non sei grande questa cosa che state montando, siete già 4-5 giorni. Grande, quando passi sotto casa la vedi. Grande, quando è finita enorme. Ma la vedono anche i condomini del palazzo di fronte. Se ci passo io glielo dico, guardate signori che queste installazioni che vi stanno facendo nel palazzo di fronte sono completamente abusive. Sì, così viene un controllo, fanno le verifiche e fanno il verbale, così non ci viene più nessuno. Agghettare benzina. Ma siamo sul canale 9, sì. Cosa? Non ho sentito, che qua c'è un casino. Su che canale siamo? Sul 10. In che baracchino io sono su, lo devo controllare, la nostra domanda. Vabbè dai, io vi saluto, vi ringrazio per il QSO e ci sentiamo un altro momento di nuovo. Dai. Ciao Roberto, grazie per il QSO, abbiamo chiacchierato per oltre un'ora e mezzo, non so dire con esattezza. Ciao Fabrizio, salutoni, mi hai ascoltato, ripeto ancora, fate sentire. È lo stesso discorso lo faccio per Salvatore. Salvatore, fate sentire che da quando hai la patente anche tu sei un po' assente nella 27. Fabrizio mi ha spiegato più o meno in che cosa consiste l'assenza, il discorso di varie bande da occupare, anche quello è giusto, è vero che sia così. Comunque, siamo sempre qua noi, ci fate piacere quando entrate entrambi in 27. Riprendi pure Salvatore per me e per quel RT dopo il vostro finalino, avanti. E K Giulio, guarda, io ho pochi misteri da svelare. Io accendo la radio e mi fermo e parlo da dove sento che c'è gente. È ovvio che se sono in una banda non mi metto a cercare di parlare contemporaneamente in altre due o tre, per cui se c'è gente entra e parlo, il più delle volte è più facile trovare gente corrispondenti in 40 o in 80 metri piuttosto che nella 27, ma molto più semplicemente la cosa è così, questi sono i termini, per cui non prediligo una cosa rispetto a un'altra se non per motivi di opportunità. Se c'è gente si parla, se no per fare un monologo me ne sto zitto e mi guardo il computer, capito giusto? Sì, ma voglio dire, non ti dimenticare di noi. Tutto lì. Te lo dico perché so che sei una persona come si deve, cioè tu che veramente, se no se fossi stato tu una persona alla quale a me non saresti piaciuto in frequenza, figurati se ti avrei invitato a ritornare più assiduamente qua in questa banda, ma nemmeno per idea, se te lo dico perché evidentemente qualche medico ce lo hai, no? Senz'altro. Vabbè. Ciao Salvatore, ci sentiamo, ciao Fabrizio, ciao Roberto, riprendi, va bene. Ehi, ciao Giulio, sempre un piacere ascoltarti, dai, ci sentiamo alle prossime, ciao ciao. Registrato, riprendo quello che se può diventare radioamatoriale il tempo lo devi dividere, prima su un canale qua per esempio lo devi dividere moltiplica per 100 perché hai tutta una serie di cose da fare, quindi se fai attività radioamatoriale, se poi non fai attività radioamatoriale allora è ovvio che cioè, se mi senti sempre qua vuol dire che non sto facendo attività radioamatoriale solo per quello, poi ogni tanto io entro, tu non mi senti, ma ogni tanto che quando accendo e sento qualcuno entro, saluto, magari rimango 10 minuti, faccio una chiacchierata e poi chiudo, però ascolto ed entro sempre e chiudo, capito? Purtroppo è quello, se mi senti molto spesso qui vuol dire che non sto facendo attività, solo questo. Va bene, riprendi Roberto. Guarda, stai uscendo da Cani, non si capisce, forse perché sei fuori di frequenza, non so cosa hai toccato, senti, si è abbassato anche di segnale, se sei tu Fabrizio che stavi parlando. Sì, ho problemi, dai, aspetta che controllo, adesso mi viene male attaccare l'altra radio. Sì, si è abbassato di segnale, c'è un segnale molto più basso, per cui sei qualche problema anche di uscita. Ok, poi ho sentito un break che sembrerebbe Gianni Capri, avanti se sei tu. Sì, buonasera a tutti signori, buon Natale a tutti, sì. E anche alle vostre famiglie, riprendi Roberto. Sì Gianni, tanti auguri anche a te, ti auguro tutto quello che desideri, ok? Avanti Salvatore per Gianni. Ciao Gianni, ben sentito. Roberto, tu ogni tanto sembra che stia attaccando una friggitrice. Fabrizio. Anche io ho il problema, adesso faccio un altro lavoretto, metto l'altro, che questo mi sta rompendo le scatole. Fabrizio, mi sembra che stia sistemando la radio. Avanti già. Riprendo, ti ho detto i problemi, io come ci sia, devo accendere adesso, però, ma non è diciamo, è capito ancora in linea, però come dicevo degli splatter, no? E ho c'è qualche un altro. Fabrizio di nuovo, e così non so chi ci sia perché l'ho appena chiesto, sono salito invece a vedere chi c'è in frequenza, tutto bene, Salvatore. Ciao carissimo, sì, devo dire abbastanza bene, ho scoperto in questi giorni di ferie un programmino in a riga di comando, non so se lo conosci, Blast. Gianni. Beh, riprendo io. Ci sono? No. Gianni ha toccato l'emissione mia. Adesso come sto uscendo, Salvatore? C'è, Fabrizio. Io vi saluto, chi mi chiama, i bambini che vogliono vedere un film con me. Sono nel baracchino, ma sta andando male. Adesso non ho tempo di controllare. Adesso lo smontano di questi giorni, non lo controllo. Ma ti ripeto, prima devo risolvere quell'altro problema. E poi ci metto mano. Una buona QRT per me, mi ha fatto piacere. Auguroni a tutti nuovamente. Grazie Fabri. Un abbraccio, altrettanto ricambia tutti quanti. Ci si sente in altre occasioni o in altri lidi. Robè. Allora, se era Fabrizio che stava parlando, per me era incomprensibile, proprio non riuscivo a capire quello che stava dicendo. Se vuoi riprovare a parlare, Fabrizio, non ti ascoltavo, non riuscivo a capire quello che dicevi. Aspetta che giro, non so se adesso mi ascolti meglio. No, ho problemi io, ho problemi grossi. Non riesco a capire, comunque Fabri avrò modo di sentirci in situazioni migliori, dai, se stai chiudendo, ho capito, almeno devo aver intuito che stai chiudendo, non lo so, ci sentiremo in situazioni migliori, dai, ti saluto, ti auguro tutto quello che desideri, se non avrò modo di sentirci anche buon anno anche a te. Ok, ciao Roberto, forse sono meglio, ma ho problemi con questo paracchino, lo devo mettere a posto e tutte le altre radio sono scollegate. Eia, dai, ok Fabri, alla prossima, a risentirci. Gianni, ci sei? Io non so, Roberto, non sto neanche più sentendo Gianni. Non lo so, Gianni Capri 2, attenzione sui colpi, la trazione della Sassari, che trasmette sul canale 10 della 27, avanti. Sì, hanno perso, non fuggire questi disturbi, come che ci siamo state. Allora, c'è un po' di propagazione, io ho dei disturbi fino a Santiago Sì, arrivano, che è dovuto alla propagazione però, stazioni lontane. Di sbatte di qualcuno no, non assolutamente. E tutto quanto non ho sono confuso, non mi sono tanto chiare, capito, vero bene. Però arrivo bene io. Sì, radio 9+20 qua, niente da dire, però ce l'avrei detto. Vediamo un po' a Salvatore il controllo di Santiago, vediamo un po'. No, da me è molto più basso, da me è un Santiago circa di 8 e la radio è bella disturbata. Però è comprensibile, sai, se non altro è ancora comprensibile. Sento anch'io molti splatter come preme lui la portante, se li trascina lui, se no non li sento. Questo ho cambiato apparato, un po' più rumoroso di quello che stavo utilizzando prima, purtroppo quello là c'ha dei problemi, stavamo parlando proprio con quello, con Fabrizio, dice che è un difetto sul 44 già verificato, dice un falso contatto su qualche componente, sicuramente su qualche scheda, bisogna rivederlo, dai. Fabrizio ha detto che potrebbe, che condizione di farlo lui, dai, vediamo un po' cosa riesce a fare, se no lo mandiamo su da Biancone. Oh Capri 2, ci sei? Riprendi un attimo, vediamo un attimo se sei tu che ci allunghi di splatter fino a qua. Sta parlando Roberto? No, io non sento nessuno. Capri, ci sei ancora? Sì, che ci sono, Roberto, diciamo che, come si chiama, una propagazione, forse anche in banda, forse non arriva più di 7, o se più usano, usate o 7, buono amico. No, a te diciamo non ti disturba, la Scalvalche, ho detto, ripeto, ho sotto dei segnali, però siete tutti molto, ma molto più alti, arrivano intorno a Santiago 6. Dopo una giornata un po' strana oggi, probabilmente domani dovrebbe arrivare acqua, per cui con questo caldo che ha fatto, questi incroci di correnti calde e fredde, prevista qualche sultatina d'acqua, per cui le onde elettromagnetiche magari si distribuiscono magari in modi diversi dal sud. Che non sta uscendo di radio, chi sta parlando? Ma chi sei tu, il Capri? No, io esco, è a Puglia che esce, esce abbastanza bene, anzi ce l'ho quasi a zero il collo, che l'ho mangiato in appena, no, ma una grande, perché la lancetta che muove. Stanno a alzare il microfono, no, là c'è qualcuno, un segnale intorno ai 9:20 passati, abbondanti, che non sta uscendo, avanti chi è? Provo, forse ero io, ora sto uscendo. Ma tu hai salvato? Eia, così sto andando, non riesco a capire quanto devo regolare il mic. No, stai uscendo, però mi sembri un po' più bassino il segnale. Perché l'ho diminuito, adesso sono a uno sputo solo di segnale. Sei 9:15, tenete a 9:20. Dovrei essere come modulo normalmente, però stavo lavorando sul mic, perché la radio evidentemente a seconda del corrispondente qui in AM non va bene, devo ritoccare il mic. Dimmi un pochettino se così va bene, e la lascio così. No, la parte mia si è perfetto, se no è 9:25 e mentre nell'altro caso è di 9:15, tenete al 20. Allora, il mic lo lascio così. Capri 2, mi copi tu? Santiago 8, purtroppo QRM è molto vicino al tuo segnale, non riesco a capire quello che stai dicendo. Riprova un pochettino, vediamo un po' avanti. Ho sentito ciao Roberto e buh, non ho capito nient'altro. Ma scusate, in FM possiamo andare? Siamo in FM, se non in FM, no, qui è proprio ok, perfetto, per me ok. Allora, io ho sentito a te che hai superato a Salvatore stranamente, non ho capito per quale motivo, poco fa Salvatore era più forte di te, adesso l'hai scavalcato di brutto. Vediamo un po', rifacciamo il passaggio, vai prima Salvatore e poi Gianni. Ok, ci siamo, regolato, ok, bene? Perfetto, 9.55 il segnale, vediamo Gianni Capri. Dall'apparato e rosso idem, basta commutare l'interruttorino che c'hai sotto il tasto grande dell'accensione, basta. Però io sento qualcuno che sta chiamando, attenzione un attimino di bianco e vediamo un po' chi è. Avanti, chi vuole entrare? Chi è? Avanti, non capisco chi sei, stai uscendo di radio, però non capisco quello che dici. Non lo so chi è, vai, non so chi l'ha copiato, vediamo un po', Salvatore l'ha copiato. Siamo in FM, eh. Se non chiariamo che siamo in FM, la gente non capisce. Siamo in FM, canale 10 FM, amico caro. Aia, questo è un segnale 9 più 20 qua, va bene, le indicazioni FM sono un po' a conto proprio, però non lo so, o a meno che non sia qualche segnale da lontano che arriva in propagazione. Penso di più la seconda. Vediamo un pochettino Capri 2 e poi vediamo se Pinuccetto ci ha seguito e se riusciamo finalmente a sentirlo. Poi, vabbè, non ha l'accordatore automatico anche quello di Capri 2? Certo che c'ha, ma non capisco la necessità se c'ha la Mantova, ma anche l'ha già accordata su quella frequenza lì, dei 40 canali di utilizzo normale, non riesco a capire cosa se ne fa dell'accordatore se non ha stazionale, c'è una cosa utile. Chi mi sta preoccupando è che vedo che lui sta sollevando troppo il microfono, si è messo a toccare il microfono e sta mezzo saturando. Pure, scusa un attimino, il Mickey Gain a quanto ce l'hai dell'apparato? Deve essere a uno, non più di uno. Ma stai scherzando, qua sei 9,60 su questo indicatore qua, vabbè, in FM, ti ripeto, non hanno credibilità i valori, però mi sembra un po' troppo alto di radio. Ma il processore a quanto ce l'hai? Allora, vediamo un po' come... Adesso manca uno. Non lo so, vabbè, mi sembri fortissimo. Comunque la radio è chiara, niente da dire. E la potenza a quanto sei tu? Non metterla oltre il 3 comunque, se non consiglio, perché sennò sbagli tutta la potenza. 4,40, la MFM si moltiplica. Conviene un po' abbassare, forse sei un po' troppo alto di potenza. Certamente. Ti sei un po' abbassato. 8-6-9-55 qua come segnale, dai, va bene, ok, riprendi tra Salvatore, prova invece tu Salvatore, se tu troppo basso, adesso non ho confronto strumentale perché sono con un altro apparato per vedere se i livelli a orecchio comunque è molto più alto, come si chiama, Capri, se sta andando fuori dai valori limite che mi sono impostati, riprova un po' Salvatore. K, più che altro è la sua radio che la sto trovando quasi ai limiti del... la si sta per essere stridula, forse è troppo alta, non so se è il compressore o la radio, non so che cosa delle due, se potrebbe toccare un pelo in meno. Comunque dimmi un po' la mia. Ah, no, la tua è perfetta, niente da dire, è molto tranquilla, niente da combattimento, dai. Quello che stavo trasmettendo lui sembra una cosa più da combattimento, dai. Potresti teoricamente sollevare, se vuoi fare una prova col Michigan a sollevare, vedi, ti do così a quanto riesci a arrivare. Allora, vediamo un pochettino, questa era la regolazione che avevo anche in AM, siamo a ore 12 con il mic, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ma che mic sta utilizzando? Sto utilizzando? No, il mic del... io ho la cuffia microfonata, capito? Non è amplificato quel mic? No. Uso la... Adesso sto lavorando proprio sulla manopola della radio. Cappa, dimmi una cosa, ma il processore ce l'ha inserito o staccato? No, in FM e in AM non si può mettere il processore in questa radio. È una modalità che funziona solo per la banda laterale. Cappa, va bene, aspettate un attimo, bianco, se sto qualcuno sotto, avanti, chi vuole entrare? Questi sono gli Stati Uniti, va bene, direi ritorniamo di nuovo in AM, dai, se la forma di entra qualcuno non ci capisce, dai, ritorniamo in AM. Ci siamo? Prima anche in FM, si dirà. Passiamo un pochettino. 1, 2, 3, su, su, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, ok. Aspetta, scusate, avete parlato in due, vi siete quasi annullati. Rivediamo prima Salvatore, avanti Salvatore. Ok, stavo regolando. Ok, per me io dovrei continuare ad andare così. Fate mia, tutto ok. Avanti Gianni Capri, vediamo un po' a te. Ok, qui ho rimesso, diciamo, le regolazioni, che ho dovuto regolare la potenza, da mega fisi, e poi ricordo regolare la potenza. Assolutamente no, va benissimo, ok. Se non sono in distretto, scusa Salvatore, è un 2000 o che cos'è, o dell'altra famiglia? No, è un 1000, l'MB. Un 1000, scusa, no? Ma sempre dalla K, no? O di che cosa stai parlando? No. Y. Ah, sì, ho capito, no, non riuscivo a memorizzare, capito, no, tutto a posto. Comunque, in AM va bene questo apparato, no, non c'è niente da dire. No, che va bene, però devi stare lì a regolare, capito? Tutto lì. Io solitamente lascio un setup che è meglio, che va bene un po' per tutto quanto. E il processore non lo posso usare né in AM né in FM, quindi lavoro solamente di manopola, di mic, tutto lì, e di RF Power. No, no, va benissimo, è anche la stessa cosa da 2000, se non ti fai certa regolazione c'è una sportiveria, non riesci a farlo uscire, poi ho visto altre persone si sono divertite e l'hanno fatto uscire anche in AM. Attenzione, prego, Roberto. Sì, avanti, Alessandro, tu sei. Ah, vabbè, positivo. Sì, sono io, città di Ferro. Saluto anche lì a Roberto. Niente, sto facendo un abbinamento di un mic. Mi potresti dire il rapporto della modulazione? Da parte mia è chiara, però mi sembra leggermente troppo alto. Dovreste abbassarlo un pochettino quel mic. Ok, vediamo in questo passaggio qua. Aspetta, forse ha parlato qualcuno sopra, Alessandro, di nuovo riprendi. Ok, vedi un attimino in questo passaggio. scusa Fabrini, volevo dire Alessandro, ti ascolto bene, però non so se ti stai portando su appresso questo disturbo, questo battimento, diciamo, questa disturbo sotto. Prova a parlare un attimino. Ok, considera che c'è molto QRM, molto QRM in frequenza, adesso non so se è dovuto, me lo porto dietro io o meno, infatti ogni tanto tento di lasciare la porta, diciamo, un attimino di bianco. Oh Alessa, infatti probabilmente te lo porti appresso tu, chiedo conferma agli altri amici, perché arrivano dei picchi simili al tuo segnale, si sembra che stai portando appresso una intermodulazione o qualcosa sotto. Vediamo se chiedo conferma cosa a Salvatore, poi chiediamo a Capi che sono un po', che Capi è più lontano ancora. Capa, ciao sta, è auguroni intanto, io infatti sarei propenso di più a modulare in FM perché c'è parecchia... C'è troppo macello nell'essere, sinceramente, riesco ad ascoltare tutti quanti che per un motivo o per l'altro si trasportano qualcosa, tranne te, vabbè, però evidentemente siamo anche troppo vicini per avere, per risentire di questi disturbi. Sando, io ti sento male con un segnale più basso del solito e soprattutto è disturbato, ogni tanto arriva un qualche cosa in più con la tua modulazione che la rende incomprensibile da parte mia. E idem Capri 2. Comunque riprendi pure, sa. Capa, ciao, buonasera Salvatore. Purtroppo, diciamo, da parte mia non è che ti ascolto, alcuni passaggi riesci a passare, ma poi ci sono, diciamo, queste modulazioni, questo QRM, diciamo, che riesce un po', diciamo, a coprirti. E infatti, idem come sopra. Capri 2, lo senti a Sandro? Sì, lo sento, buonasera Sandro. Buon Natale anche a te. E diciamo però, come stavo dicendo Roberto, ci anche quando parli l'unico che sento bene è Roberto, che quando parli tu ci ha fatto quella roba sempre trascinata dietro perché molte volte ci ha spalti, qualche volta arriva Santiago 7 e però qualche volta anche arriva 9, quindi cosa succede? Quando ci sono gli spalti ti viene trascinata dalle vostre modulazioni, però nel compenso a Sandro lo sento bene anche di radio e riprendi Roberto. Io come ho detto prima, è una giornata un po' particolare, o passiamo in FM o se no ci proviamo a spostare di canale, perché però questi sono quei segnali che stanno arrivando dagli Stati Uniti, sono segnali molto furti, sporchi, e ti tirano sovramodulazione una sopra l'altra, e creano problemi anche ai segnali che non sono furtissimi qua vicino. Andiamo in FM un attimo tutti quanti, almeno riusciamo a dialogare e capiamoci. Ok, tutti in FM allora. Oh, ok. Però ci sei? Sono Camillo di Vostro Lim, ho fatto il messo denunciato. Ciao Camillo, René, vado a pranzo, eh? Cacca, nove mesi stanno arrivando. Cappa, ok, è arrivato. Sì, da sotto 9.40 qua il segnale, ma poi questi qua sono 9.20, deve essere sono ucraini o qualcosa del genere dalla lingua, sono paesi dell'est, pensavo fossero americani. Ok, vediamo un attimino. Roberto? Sì, avanti, mi copi Sandro. Capa, ti copio, sei più chiaro, diciamo qua. Qui come mi tiri fuori? No, segnale 9.35, radio chiara, niente da dire, di subito scavati. Vediamo Capri, vabbè, Capri arriva a bomboletta. Purtroppo diciamo anche qui in FM ci sono altre modulazioni altre modulazioni, diciamo, dove ti scavalcano un attimino. Vediamo un attimino. Oh, Roberto, ha cambiato qualcosa da te? 9.50, sì. Aspettate un attimo, io faccio un salto nei canali, vediamo se il canale 1 o canale 30 c'è libertà di trasmissione. Aspettate un attimo, cioè continuate qua, poi magari rientro. Continuate avanti, Salvatore. Sandro, io ti copio benissimo, finalmente riesco a sentirti pulito, pulito, pulito. Non so, dammi un QRK anche tu. K, Salvatore, solito discorso, dai. Solito discorso che a momenti passi, a momenti ci sono altre modulazioni, diciamo, che ti scavalcano un attimino. Non lo so se tu riesci a tirarmi fuori. Allora, io ti copio perfettamente. Ora provo ad aumentare io un po' di wattaggio. Vediamo un pochettino se è così qua a bucare a fare un passaggio completo dal tuo punto di vista. Un po'? Dimmi un po', sa. Io riesco a copiarti al 100%. K, ok. In questo passaggio si è passato al 100%, diciamo. Che vai tranquillamente, passi tranquillamente. Ok. Oh ragazzi, ok, se ci mettiamo un po' di vantaggio riusciamo a sentirci, alla fin fine. Adesso sono attorno a 80. Allora, io ho fatto giro dei canali, il canale più pulito è il 21 e il 23, se vogliamo andare lì non c'è niente, sono puliti. Se volete, io... Per me va bene, possiamo continuare anche in FM, nel 21, o andiamo in AM? Possiamo fare una prova, andiamo prima in AM, a me è libero anche in AM, andiamo tutti sul 21 in AM, vediamo un po', e poi facciamo le prove. No, mi si sente... Vattore, Alessandro e Capri, vediamo un po' se fa un po' meglio come missione. Avanti prima Capri, più lontano, e poi vediamo. Capri, ci dobbiamo memorizzare il canale. Alessandro, vediamo un po' qua in FM come si comporta. Ecco, mi ascolti, vabbè, comunque buonasera lì a... Buonasera a Gianni dopo Roma. Ciao Sandro, buonasera anche a te, tanti auguri, dai. Buon Natale. Ciao, dai, ok, vediamo un po', Roberto. 9 quasi più 20, il tuo segnale, il rapporto di Santiago va benissimo, Radio 5 è chiarissima, non abbiamo disturbi, non ci portiamo, non vi portate anche appresso nessuna sfuggita di altre emissioni, per cui vediamo Salvatore adesso e poi facciamo un salto con Capri. Ciao Salvatore, ha cambiato tutto la tua famiglia, vai, tanti auguri anche a voi. Grazie carissimo. Oh Roberto, guarda che Capri 2 probabilmente è ancora alla ricerca di questa frequenza. 27215, diglielo. Qui sono, buonasera Gianni doppio Roma, auguri anche a te, ci siamo già fatti anche al telefono, hai capito? E niente, non l'ho azzeccata perché ho girato piano piano finché vi ho centrato, tutto lì. E di nuovo rimetto il tutto a Sandro, che adesso sei arrivato a bomboletta, sa, riprendi che è pulito il canale. Cappa, ok. Ok, dai, vediamo un attimino, Gianni, come mi ascolti in quelle tue coordinate lì, vediamo un attimino la regolazione, più che altro adattando un mic. Ok, Capri 2, vediamo un attimino, dai. Ok, così arriva 9.5 la radio, 5 a bomba, molto bello, 9.5 è una radio bellissima, sa, è pulito il canale, quindi... Stai andando alla grande, rimetto il tutto a Gianni doppio Roma, a quanti Gianni ti rimetto il cambio? Ciao Gianni, mi sento anche a te per cordialità, salutoni e tanti auguri alla tua famiglia, anche se ci avessi fatto un po' il telefono, te li rinnovo. ti sento molto bella, Alessandro, la radio è molto bella, forte, chiara, che dirti di più, non c'è altro di più, dai. Certo, ok, dai, no, stavo facendo un attimino un piccolo prova, diciamo, su questo mic, diciamo che è un mic abbastanza, diciamo, abbordabile, niente di particolare. Va bene, ok, c'è Salvatore, però, Salvatore, vedi un po' se riesci a aumentare qualcosina. Certo. Non so, dimmi un pochettino se riesco a passare. Cappa, passi tranquillamente, dai. Ok, perché non vorrei poi dare fastidio qua vicino, in loco. Danny, come andiamo? Poi sono in coma, sono stanco molto. Ho mangiato troppo e mi sento pesante. Ma la tua vita già la conosci? Ma non è bello. Ho bevuto un vino, alcol mi interrompe. Vino sì, di quello buono, di proprietà. Niente, no. Sono. Non c'è non è meno oggi perché sono già 2 giorni che c'è non è la cena di Natale del 24-25, oggi di nuovo un altro pranzo super e adesso è ora di dare un taglio. Ho capito, è anche giusto stare un po' iniziare a stare un po' leggeri, dai, nei prossimi giorni, non fa male. Ok, reparto riprendi e poi mi scusate un attimo perché siccome c'ho ospiti chiacchierò almeno un pochettino per non fare il maleducato qui in casa e ritorno tra qualche minuto. Riprendi pure Roberto? Dai, riprendo un attimino perché mi hanno chiamato, ritorno tra poco, dai, minutino anche io, dai, mi avvicino dentro e poi ci risentiamo, dai, proseguite e poi arrivo tra un po', dai. Tombola, non si gioca oggi? A vincere soldi o a perdere? Per stare in compagnia. A me mi hanno invitato degli amici, ci hanno invitato tutta la famiglia e io gli ho detto che non ne avevo voglia, la verità, però ci ho mandato a mia moglie e mia figlia perché sono amici di famiglia e ho detto trattamene voi, non offendervi, ma io non ne avevo voglia. Altrettanto ti dico già, e Babbo ci ha disertato, ha detto che non cena stanotte, io nemmeno, perché ieri notte ci siamo buffati, ci siamo, e oggi era pranzo da mia sorella, io lo stesso a mezzogiorno ho dato un'altra, e sono pesante già anche io, e hai capito, però soprattutto sono quei dolci che mangio sempre che non le devo mangiare, quei datteri, quella roba lì, già non è neanche il mangiare, hai capito, dell'altra roba, però è troppo, bisogna stanotte qualche frutta e poi domani vediamo, qualche medicina, per me sento, come stai dicendo tu, molto appesantito. Non è tanto i dolci, no, già, che mischiamo tante cose, sembra che mangi poco e poi gusta una cosa, gusta l'altra. E antipasti, insalata russa e questo e quell'altro e carne e pesce, e il nostro fisico è abituato a mangiare una cosa e mangi prima, seconda e via, penso che sia per tutti così, invece qua in questa cena qua si mangiano gamberoni, si mangia porcetto, si mangia agnello e si mangia insalata russa, si mangia tutte le corne, tutte le cose possibili e immaginabili. E alla fine poi il risico di domanda al conto. No, noi diciamo già, ieri notte abbiamo fatto tutti gli antipasti, pompa di granchi, tutte le antipasti di quei pomodori secchi, sott'olio, quella roba lì abbiamo fatto già. E poi ha fatto gli gnocchetti per primo a salmone e poi per secondo c'era. E siccome abbiamo regalato un agnello, questo che ho vinto la campagna, abbiamo preso la coscia già e l'abbiamo fatta con olive, io ne ho assaggiato appena, e Ottavio non ne ha voluto, e lì abbiamo comprato i gamberi, gli ha fatto 4 gamberi a lui nella bisecchiera. È capito, però poi abbiamo iniziato con questa roba dolce, torronetti, datteri, qualcosa di quell'altro e mi sento, a prima voce è salito, perché ha detto che sono pieni, poi già, cosa succede? Non camminiamo, facciamo movimento e quindi è capito. E non si digerisce, non si smaltisce. Sandro, riprendi. Certo. Ok, dai. Vabbè, purtroppo delle volte sembra che aspettiamo proprio queste feste per ingolfarci e quant'altro, ma non fa potersi ingolfare, almeno da parte mia è negativo perché diciamo se mi ingolfo e mischio, poi sto male, quindi sapendo diciamo com'è il mio organismo, sapendo cosa diciamo vado a incontro, allora mi attengo, infatti non ho niente di particolare, giusto qualche assaggino così, ma molto leggero, perché poi succede questo, quando ci sediamo a tavola, ci ingolfiamo, ci facciamo, assaggiamo di tutto e di più e poi è come che tu hai accennato, diciamo, ci sentiamo affiaccati, mettiamo a lavorare diciamo l'intestino e quant'altro, a lavorare al doppio e quindi conviene meglio sempre diciamo tenerci leggero, un po' di tutto però leggero, ne prendi doppio rum. Ehi, vabbè, ormai è quasi impossibile, perché se assaggi un po' di tutto mangi già tanto, anche se ne assaggi appena, perlomeno. Come siamo noi è così. Io ieri per dire c'avevo qualche pasti, c'era parete di formaggio, c'era formaggio sardo, c'era salsiccia, prosciutto, insalata russa, insalata di polpi, guarda, di tutto e di più, salmone. Poi siamo passati direttamente a seconda perché prima non ne ha fatto, ieri sera perché dovevano, questi due amici miei dovevano cantare nel coro della chiesa, quindi a mezzanotte dovevano essere lì e dovevamo anche diciamo fare le cose più in fretta. Ma abbiamo mangiato, guarda, abbiamo fatto l'agno del porcetto con lo spiedo nel cammino, pure abbiamo fatto i gamberoni integrame, gamberoni arrosto, insomma un menù proprio pesante, poi ci siamo messi a letto, non sono che non ce la facevo più, mi ha ascoltato la messa, ma la verità mi stava per addormentare. Ehi capo, già lo so, logicamente magari quando ti trovi in compagnia, quando ti trovi con parenti, amici e quant'altro, quindi non stai lì a diciamo a riguardarti e quant'altro. Ehi, va bene, dai, ok. Gianni, capri due, avanti. E ok, sai noi perché così e poi diciamo che io non sto più scendo, come facevo prima, facevo anche delle passeggiate, mi facevo, sì sono sceso poco fa, di a comprare il puma, hai capito, e niente, sono a scenderci, siccome hanno regalato questi signori anche l'olio, una decina di litri e un po' di formaggio, e ogni volta che vengono mi fanno dei regali, gli ho avuto la campagna due mesi fa e mi hanno portato un agnello bellissimo, però che se la mangia questa roba? Prima quando c'era mamma c'eravamo sempre tutti riuniti, poi mancata mamma non se ne ha più voglia, mia sorella già c'era la gente lì, cognati e cose, però io oggi c'era papà, preferisco stare, hai capito, quello cosa non ce ne manca già. E come si chiama, bisogna regolarci, come fece lo Sandro, a non buttarci troppa roba dentro, perché e di notte poi è pesante già. E io oggi mi sento così, perché ieri notte poi sono andato subito a letto e il panettone con la crema, queste cose che non devo se ne deve fare a meno anche di fare tutte queste pietanze, ti prendi. Tu finisci i bocchi rossi e ti fregano i dolci. No, io la verità, guarda, oggi era anche il compleanno di mio cognato, quindi abbiamo fatto tutta a casa di mia suocera, ci ha fatto un altro pranzo di quelli elite, in più era il compleanno suo, c'era anche la torta, oltre tutto il resto, c'era champagne, c'era di tutto, vabbè, ti dirò una cosa, io ho preferito la torta che bere lo champagne. Ma ti dico già, lo compravamo sempre, non perdi niente. Ho comprato di quei martini al Città Mercato, grandi auguri, dolce, anche erano a buon prezzo, ne ho comprato 4-5 bottiglie, poi mi ha detto papà, tra l'altro perché ne hai detto, poi mi sono comprato un po' di vino, hai capito, per le fete già, poi ci viene gente, un bicchiere di vino, però non più di tanto, champagne non siamo più, e c'è anche Giuliani Giuliani, hai capito, prima volta che lo compravo, è nuovo, è Tugnano, però già è a buttare via i soldi, ho detto, c'è gente auto che non c'ha niente, quindi ne facciamo a meno, mi... Ieri sera qui sono salito dove ci ho letto a leggermi le scarpe dal calzolaio, un tetto e cicci, gli ho fatto un bel lavoro già, bel lavoro, perché diciamo che io consumo molto, diciamo, in guida dei mezzi pesanti, capito? Però le cose non le consumo, le scarpe mie sono sempre nuove già, quindi ho detto le faccio sempre quando si possono mettere a posto, quindi sono salito lì, poi ho fatto un altro po' di spesa così, diciamo di anticipare roba del genere per non stare sempre, diciamo, andare tornando, e l'ultima notte dell'anno sarà lo zappone con le lenticchie e boh, mi prendi sa? Ok, va bene dai, comunque ci vuole un po' di astinenza dai, perché logicamente non siamo più ragazzini. Non siamo più ragazzini, va bene, dai, vi chiedo un attimino di bianco che devo chiudere un attimino questo microfono qua, dai, riprendi Gianni doppio rumo. Ehi, avanti, Salvatore, se ci sei. Salvatore, non ha ripreso, chi è rimasto oltre noi? Da Roberto, Roberto, ci sei. Lontanato. Ma già riprende, non se ne va a salutarci. Capito già, e niente, lui stamattina mi... Stavo guardando, ho fatto acquisti dall'alimentatore perché c'era lo strumento del volto che non andava dell'alimentatore da 40 ampere, l'ho smontato tutto e l'ho messo a posto, adesso funziona alla grande. Ok, e poi già del resto, hai capito, tutto bene, e quando c'è la salute già, diciamo, c'è tutto, c'è tutto. Io qui mi sto tenendo basso, c'è a vedere. Non mi stai dicendo, sì, da 13,90. chiama al massimo, col tuo potenziometro girato al massimo, invece col potenziometro a zero, e non a 3 volts per ora. Vabbè. Giusto allora. Allora va bene. Quello della dettagli grande è quello che ti ha dato la persona che ti ha venuto l'apparecchio, eh. Eia, è quello lì è già, hai capito, è quello lì. Ok, no, ma ci ho posto bene, mi sono portato il coso, gli ho attrezzato la letta dell'attrezzamento, poi l'ho riverniciata, hai capito come ero. E no, l'ho messo troppo pulito bene già, queste cose, proprio quando rimangono per massimo quello mi già, deve essere appuntino. Appuntino deve essere perché, hai capito, quella roba lì proprio fa funzionare la radio. Lo rimetto qua bene, cioè, vedete? Ok, il resto già va benissimo, non mi posso lamentare. Per quello trasformatore, così? Sì, quello che c'è il trasformatore di linea. Allora io, mettetemelo per in testa, non uso l'alimentatore se non c'è il trasformatore di linea, perché ci sono quelli a buon prezzo, io se non c'è il trasformatore su questi apparati, con lì non è uno, deve essere un trasformatore di linea, altrimenti è un alimentatore scadente. Non è vero, qua ti posso contraddire, perché io lo usavo con l'alimentatore di quella scheda e a me me lo pilotavano, me lo pilotava molto bene quello che c'ho io. Non lo metto in dubbio, però ogni tanto già questi alimentatori danno anche i numeri, così è. No, ragazzi, per me sono sempre andati bene, mai i numeri. Non lo so, comunque, io diciamo che, aspetti, qui, poco fa in effetti ho toccato l'accordatore mio. Sì. Aspetta, che è porta a zero, mio. Ok, adesso va bene, ecco, regolato in FM, l'accordatore c'è la appena di stazionare, adesso l'ho messo, diciamo sì, oh, sì, adesso si vede anche la lancetta con picchi positivi e devo arrivare anche meglio. Ok, ho messo il mio accordatore, il mio FG, te lo conosci, no? Vabbè. E vabbè, adesso non vedo che l'hai pensato, anche se non è di linea. Questo c'è il trasformatore di linea, questo che ho io. Ma non è della linea Pinfo? No, lo sai l'alimentatore di questa linea quanto costa, quanto l'apparato già. Io sono anche brutti, a me non mi piace. Sinceramente non c'erano strumenti, non c'erano nulla. Sì, vabbè, ce l'hanno fatto già, ma per quello che lo uso io già ti do sempre. Adesso perché mi ha sgridato Claudio un'altra sera, perché fino a ieri sera ero sempre attaccato sul commutatore a tre posizioni, ma ne avevo sempre sui baracchini, non me li levo la testa, non ce li ho sempre vicini, hai capito? E mi piacciono quello che è a bello così anche, perché è un bel apparato. Tanto lui ci sarebbe guastato già, se non lo usa, perché me l'ha detto che lì lui non può attaccare nulla e niente. Capite, poi se rimane fermo fa una brutta fine. In effetti la patria c'è il fermo è come uscire. Infatti no, lui conviene a conservarsi i soldi, hai capito? Conservarsi i soldi quando è se ne compra un altro. E stasera qualcuno è entrato oltre Salvatore Roberto? No, io quando accedo c'era Roberto con stava chiudendo Giulio, stava chiudendo e poi c'era Salvatore e niente, hai capito? E nessun altro perché lo accedo che era tardino, mi sono riposato anche stasera, una mezz'oretta mi sono buttato sul letto perché ero proprio non stanco già, e come ero buffato mi faccio moletta, ma no, e la ruota era questa, Roberto, io e Salvatore, poi è entrato Sandro e poi ci è entrato tu. Io stavo chiamando già per darti gli auguri, manco risposto mi hai. E quando? Quando Antonio? Ciao, buon sento, auguroni. E quando mi hai chiamato? E volevo guardare il telefono a che ora, come te lo chiamo? Per gli auguri? No, non so se ha... Ah, mi sa verso le 3 come se è rientrato la mamma. per gli auguri, perché mi ha rimasto il messaggio, poi chiama, non risponde a Bonato, ma sicuramente il telefono non ce l'ha preso. Comunque auguri. Auguri Antonio e anche famiglia. No, lo sai, adesso ti spiego, era la plaza a casa di mia suocera e c'era un bordello, tutti ridendo, facendo chi. Il telefono era nell'ambito del borsello appeso all'attaccapanni, quindi immaginati come ti potevo sentire io. Ah, ma non è per quello, ma me lo immaginavo, perché la gente deve stare sempre con te fino in appresso. Ho visto il messaggio, ho chiamato, e c'è così, te lo auguri a Gianni invece, no, non c'è problema, già va bene anche il baracchino, vai. Sta parlando. E sei andato qui al circo? Ma cosa al circo, che non riuscivo a trovare, non riuscivo a trovare, e uno e all'altro sicuramente il telefono non prendeva, e poi sono rientrati 2 ore dopo. Che mi hai chiamato tu, che c'è Gianni de... a Napoli, Gianni di Muros. Avanti già. Sì, Antonio, buonasera, buon Natale anche a te, ti sentito, dopo tanto ti si risente. No, io il telefono lo stavo cercando per Mari Permonti stamattina già, allora mi avevo mandato, hai capito, di sapere di chi avevo il numero, ho mandato gli auguri di SMS, beh, sono andato lì a scuola, ma ne passa la plaga, in casa, in garage a metterla dentro un sacco, l'ho appoggiato lì dentro, in casa non ce l'ha, mia adesso, quando sono andato a buttarla fuori, l'ho visto sopra il sedino della moto, mi ha fatto la conca, come te, mi prendi i barracuda, ti metto in cambio, vai. E a Gianni, auguroni anche a te e a famiglia, se ci vuole. No, io ho sentito, anche ho sentito, a Claudio stamattina, a Luca, a Gianluca che stava lavorando, e poi a Gigi Vulcano e basta, e poi ho spento e sono andato da mamma. Pompugno niente, stavo chiamando, dicevo che veniva a Ossi dalla sorella, sicuramente mi sarà andato, comunque lo chiamavo, neanche lui mi rispondeva, e vabbè, non c'è problema, già ci sentiremo all'apparato per dare gli auguri, ecco, tutto lì. Mi ha detto anche a me Pompugno che andava a partire a Pepe da ieri a Ossi, sarà Ossi a Tomello, dalla sorella, insomma, so con chi è sposata, però minimamente la conosco, però se è ancora mi ha toccato a Ossi per quei giorni, e quindi sicuramente sarà Ossi. Riprendi Gianni, anche aspettiamo, faccio un po' di bianco a vedere se è diventato l'aperto quadrato, e poi riprendi tu già. E Europea, ci sei? Sì, sono rientrato. Ripeti, allora, Robe, va, è entrato Antonio Di Ossi. Sì, ciao Antonio, ben sentito, tanti auguri. Okay, auguroni anche a te, Antonello Barracuda, non Diossi, Antonello Barracuda. Andà bene, dai. Ok, Barracuda. Va bene, dai. Vi sento abbastanza sonnati, sicuramente oggi vi siete, dai, ingottati un po' come tutti. Ieri e oggi, eppure domani è bello. E davvero c'è anche domani, no, io a dieta, basta così. Già, ma lo smaltisco stanotte, tra un vai e vieni, da mezzanotte, dalle 11 e mezza alle 7 del mattino, vedrai che già digerisco un po' di roba. Quale di lavorare sta? A parcheggiare già. Cosa ti stavo dicendo, Antonio, il fatto che ha avanzato porcetto, agnello, insalata di polpi, affettati, e che stavo, ti dà un po' giù. No, assolutamente, è quello giustamente a domani. Fa un po' di rama alla mezzanotte e poi domani all'ora di pranzo, dai, riattacchi di nuovo con molta calma, ecco, in modo da non buttare tutto quello che si è stato preparato alla fine. A volte esageriamo, esageriamo anche troppo, ma una giornata che un po' tutti ne approfittano, dai, si ritrovano con la famiglia, tra amici e cose, quindi va anche bene, dai. Una volta ogni tanto si può fare. Sì, a voglia, almeno una volta all'anno, dai, già si può allargare un po' la cinghia e poi di nuovo la ristringiamo, perché ormai è di moda stringere la cinghia, almeno oggi l'allarghiamo un po' già, dai. Ah, ragazza. E tu Robè, andate a vedere il circolo del quadrato? No, mi interesserebbe andare a portare, le bambine, vabbè, ora già sono grandicelle, una c'ha 15 anni, l'altra ne ha fatto 11 l'altro giorno, non le vedo molto entusiasta. scusate, a me mi è sempre piaciuto il circo, soprattutto quando sono circhi di certi livelli. Purtroppo ce ne sono, sono in fase di decadenza, diciamo, i circhi. Trovare cose carine con cose nuove è sempre più difficile. Ma questo qui fa... Di nuovo c'è un prestigiatore che è molto bravo, poi c'è la danza con l'acqua, ci sono vasi di musica, ti mette anche allegria perché mettono danza con l'uro, tutte quelle musiche nuove, dai. Cosa ti posso dire? Che quella lì, insomma, lo fanno andare a suon di musica, poi mettono una musica classica, la fanno andare a suon di musica classica, insomma, è molto bellino quell'affare dell'acqua, quella danza dell'acqua a suon di musica. Poi, praticamente, diciamo, c'è di innovativo, c'è la tigre libera, senza gabbia, senza nulla, e anche l'osso bruno. No, a me piace il circo, e quando si paga molto si paga la priorità. Qua io c'ho biglietti ridotti, 6 euro, ma forse non valgono più, valevano per ieri e per oggi. 6 euro si pagava e 8 euro. 8 euro i giorni successivi e 6 euro ieri e oggi. Meno del cinema, perché addirittura si vede uno spettacolo in diretta. Molta gente c'era, chi sarà niente? No? Era pieno zeppo, Robert. Pieno, non c'era un posto. Non lo so, buon per loro, dai, che gente che si sacrifica. Io li ho sempre ammirati questi circensi, queste. Cos'è, muoia un trio, che cos'è? Che un trio è questo? No, è una nipote che fa, che si chiama Laura, buh. Comunque, diciamo che a livelli non è un circhetto, è come si poteva pensare dall'esterno, ma lavorano bene, dai. Diciamo che ci sono degli artisti molto bravi, non si può dire il contrario. Se tu sai, forse l'hai visto anche in televisore, quando tagliano la bomba in due, praticamente si collegano da una parte e quello dall'altra, hanno fatto vedere quel pezzo lì che poi infila tutti i coltelli a destra, a sinistra, sotto, sopra, e poi ne c'è la tipa intera. No, da, diciamo, sono della famiglia Orfeo, io vabbè, l'ho visto così, anche a me mi erano venuti quei bigliettini che ti danno in mezzo alla strada, ma non puoi andarci i primi giorni, poi c'è da andare con calma, dai, non lo so se mi sarebbe piaciuto, dai, andarci, però cosa andare azzurra, andarci in compagnia con mie figlie, però ho visto che non sono molto interessate, dai. Io l'ultima volta che le ho portate era, una era entusiasta, era piccolina, quel circo americano, non so se te lo ricordi, era una cosa spettacolare, poi ne ho visto altri due, uno discreto, l'altro che polverino, troppo povero. Il Martin. Prego, scusa, già? Come si chiamava? Martin, quello povero. Ehi, buh, non lo so. Facciamo riprendere a Gianni K2, se no se ne va a dormire in anticipo senza andare avanti, Gianni. No, sempre c'è un salto per un iconico, scusa, non sto parlando di cantare. C'è un iconico, stavo per presto, per cui non dormo male. Ma io avevo portato una volta a Ottavio, quando era piccolo, c'è questo circo medrano, molto bello, e dalla volta poi non mi sono tornato. Ma nel periodo di Natale è sempre bello, perché c'è bambini, anche per un'uscita, hai capito, a fare andare a vedere il circo, hai capito, tutto lì. Ok, Roberto, riprendi, Roberto, come non li usi, a fare la cura. Eia, aspetta che regolo una cosa, io sono da un po' senza usare il Galaxy, da. Già va bene, sì, sono da un po' senza accenderlo. Sì, va alla grande, va benissimo già, da un controllo a Roberto, va sempre con la casa mia, tanto meglio. Già va bene, va bene, va bene. Il Galaxy va sempre bene, Antonio, ricordati. E infatti, aspetta, adesso lo uso anche, aspetta. Veramente deve scaldare un po', aspetta un attimo, do una controllatina, sono da un po' senza usare sia il Galaxy. Fanculo, ok. È un mesetto buono che ho da un po' senza accenderlo. Ora, adesso va bene, sì. Ho messo anche il BV, anche lui da un bel po' spento. E adesso ti aumento anche la radio, fatti un conto. facciamo un bel abbinamento col Galaxy, dai, intanto bisogna farlo girare. E niente, anche noi a casa lo stesso, come un po' tutti, siamo andati da mamma, abbiamo mangiato lì una chiacchieratina, poi siamo rientrati, ho fatto 2 ore di sonno per non venirmi la bionco stanotte, poi siamo andati a casa di amici, una chiacchierata anche lì e siamo rientrati. E basta, e poi mi preparo per stanotte, ma sicuramente dovrebbe venire un bel po' di gente, con la scusa che oggi sono tutti in casa e verranno lì a bustare a farsi 2 salti, poi c'è anche quella musica hardcore che porta quella cremaglia, allora ce ne sarà stanotte di gente. Ma guarda, tu stai furia, non vedo. Sì già, però fortunatamente oggi, come ben visto, 25 gradi, buoni cena, no? Una bellissima giornata. Adesso stavo rientrando, lì c'è al bar un indicatore lì, 11 gradi, dunque si sta bene. Ti metti un giubbotto giusto, con il piumino, e sei di lusso, là già va bene. No, non ce n'è freddo, né freddo né umidità stanotte. Si vede che come giornata. No, già la passo bene stanotte. Confronto agli altri notti c'è un po' di... Scusa, che se vai e vieni, perché giustamente non ti fermi, ti scaldi anche camminando, dai. Poi qualche piccola rissa ti scalda ancora di più, già ce n'è da divertirsi, dai, già ne passi le ore. Ok. Salutoni, auguroni, ciao Gianni, ciao, tuo amico, non so chi sia. Ciao Gianni, mi hai sentito, tanti auguri anche a te e famiglia. Grazie, contraccambiati. Ascolta, un attimo un controllo di questo apparecchio. Che senso controllo? Controllo radio? Già, più radio che segnale mi serve. È una radio normale, Già si può ascoltare tranquillamente. Ehi, la radio di Tamburlana, no? Insomma, così è, dai, non è che sia... Se la sentizia con la radio migliore, ma non è che sia brutta, dai, non è di Tamburlana. È un po' così, ma non è brutta, dai. Cava. Microfono originale, già, niente di speciale, niente di che, microfono RS, e niente. Va bene. Vabbè, è nato il bambino. Non sono riuscito a riconoscerlo. Daniele, avanti Daniele. Sì, ha già, narrami tutto. Ha trovato un bambino nato. No. Ora no? No, a febbraio già. No, vabbè, troppo spesso ancora. È nato quello del presepe. Cava, quello è nato. L'altro ancora no. Cava, Roberto Quadrato, avanti. Ciao Daniele, ben sentito, tanti auguri. Ciao Roberto, auguri, ben sentito anche a te. E anche da Barracuda, buongiorno. E quale buongiorno, Ibriaghera, lascia perdere. Buonasera, auguri da Barracuda. Ciao Barracuda, ben sentito, dai. KP2, ma come mai KP2 sta uscendo così bene? Ecco, subito, non si può mettere nulla con su Linux, subito, basta da immaginare, cioè, non può mettere nulla con su Linux, subito. Ok, ciao Daniele, comunque buonasera e mi hai sentito molti auguri e capito che ti super cordializzate a te al cuore familiare. Ok, a come non potrà essere usente. Auguri per il Vermentino, eh? Chi è Pomponio? Buonasera a tutti e auguri a tutti. Auguri Pomponio, un pugno a capo. No Pomponio, sono tolto su Manzana e su Sero, già vedi e manco riponte, sei seduto a Rognone, dove sei? Sono a casa, stamattina ero facendo, capito, il maniaco, quindi non sono potuto entrare. Maria. Ho capito, ma se lo stavo chiamando, ho detto che veni via Ose, Tomà. Stiamo chiamando e poi richiamando a Ponato, ce lo rispondo, è Mosu, o è sempre in bagno cagente? Sto via cagente, non è in bagno, stavo cagando in Italia. No, mi sono alzato tardi stamattina, era una, mi sono collegato alle 4 del mezzogiorno di notte io, figurati, ero in Asciante, figurati in che condizioni ero stamattina, ciu. E ho capito, ma oggi non sei salito però. Sì che sono salito, sì, non vi... Ma me la forchetta si a pompù. Qualcosa e non mi hai fatto una strage, pia e pa, sei a Osti, ti chiamo e poi manco cagato, massa. Ti sto dicendo che l'ho fuso, capito? Ho incontrato tre amici di Osti, mi stanno portando un rubato, quindi entrare a casa di mia sorella che sembrava uno spazio della bandiera, perché altro, mi sono stato alla una stamattina, figurati. C'avevo una cosa di virus e da una parte all'altra, assaggia quello, assaggia quell'altro. Va bene, dai, oggi l'hai passata bene. Alla prossima allora. Comunque auguroni, avanti c'è una ruota abbastanza numerosa, dunque. Ti passo a Capri 2 che non lo so, c'ha qualcosa di non so che oggi. Rubide c'è Caporano, non ti preoccupare, ci vediamo a Caporano anche prima. Per quello non ti preoccupare, non ci bisogna avere di trattare o cose. Se ci vediamo anche prima, ti telefono io, sali qua e ti indaghiamo. E facciamo Caporano prima. Le scarpe. Eravamo incontrati almeno la prossima cosa, vabbè, niente, comunque auguroni a te in famiglia. Rimettiamo il tutto a Gianni doppio numero, a quanti Gianni? Ma io propongo una cosa, ci prestiamo, ci incontriamo tutti al quadrato, andiamo a berci una cosa. Adesso, se c'è qualche barattato, sì, io proprio vino mio, su 10 di uno. Sono passo io. Ho detto, gli altri sono d'accordo. Ma non c'è problema per quello, se vogliamo uscire, io sono a casa. C'è Alicia qua, figurati, ci viene il ponte a cena, quindi se volete uscire, ci organizziamo, andiamo qualche. Se aspetta qualche posto andiamo, se no andiamo a buca. Se aspetto qualcuno, è bene, sono pazienza. Zitti, Robert, ciao là. Ciao Antone, ho lasciato parlare a voi, io l'ultimo della ruota. Antone, tanti auguri, tutto quello che desideri. Ma dove andate a leggere? Siete tutto a casa, no? Che non andate, non lo so io, non saprei neanche a chi registrarli. Guarda che sei anche tu nel giro, non è andato, fatto, sei anche tu lì. Cazzo, ci siamo già fatti a pezzi tutti questi due giorni e non siete ancora convinti. Ascolta, se no facciamo una cosa, facciamo con gli scemi, come facevo io una volta. Ognuno porta qualcosa, ci contiamo al quadrato e beviamo con le cose, con i bicchieri, mi va bene. E un panettone, un pandoro, visto chi è. E ci facciamo gli auguri, non costa niente, ci bisogna andare al vanno. Ognuno porta per dire uno spumante, una birra, quello che è. E ci ripetiamo lì. 4 ore, 20 minuti, mezz'ora, anche 2 ore, cosa me ne frega a me? Tanto per scuolare adesso sventiamo. Io sono per partecipare, l'ho lanciata. Pensavo che facesse piacere. Vabbè, tutti i ciabattoni sono diventati. Io sono tutti gruppi, devo smaltire ancora. No, come idea non è male, no, io giustamente ho lasciato un attimo di bianco perché sono altre persone che devono entrare, dunque. Bisogna andare un po' di spazio, no, anche l'idea di Antonello non è male, ma io non ci posso stare molto perché devo andare a lavorare, tutto lì, bisogna vedere gli altri cosa ne pensano. Comunque volevo chiedere a Capri2, ma c'è una modulazione come quella di Claudio, ma non è che gli hai fregato qualche apparato, no? No, come dici, già se ne può fregare domani, Claudio, e poi non passatevi troppo, no, diciamo, se no qualcosa... Sì, una roba simile può essere. Che c'ha quella tonalità sua particolare? Dimmi. Dove è quella? L'abbiamo gettata perché era rotta. Ah, ecco, una cosa del genere. No, già va bene allora, da. Comunque, se volete organizzare, io ripeto, una mezz'oretta, non di più da parte mia, ecco, perché devo andare, mi devo preparare, capito? Devo essere lì alle 11:30, devo essere già lì. Allora, riprendiamo domani, dai, facciamo domani direttamente. Allora, ci troviamo e puoi stare più tranquillo. Domani è lavoro. Il mercede, chi era le chiavi? l'ha separata in due. Questo già, io ero tutta la sera grattandomi le cose in casa, capito? Ma facciamo le notte, c'è un padre che sono un altro, però tutta la sera annoiato qui. E vabbè, non c'è problema. Ehi, che battone Gianni. Oh, stasera ho sentito Natalino in radio, l'avete sentito? Non è attivo, perché è in casa? No, era da un'altra abitazione. Non ho capito dove era, comunque il segnale era molto forte. Solo dove stavano andando, comunque si sentiva molto forte. Stavano facendo le prove in banda laterale, però usciva la cani, mentre in AM e in FM stava uscendo bene. Appagato. Vabbè. Pensavo che se avessi pensato qualcosa, mi avrebbe fatto piacere. No. Capri sta uscendo diversamente, perché Capri ci ha fatto l'operazione alle tonsille, così è già. Antone, sto usando uno di quelli che c'è tu lì, un 44 sto usando. Non passa, la c'è più voce. Ah, ecco perché c'è questa modulazione. Beh. E questa bene va. Sì, io ho cancellato l'ora, gli ho messo davanti, KE. Sì, già da poco compreso, già va bene, sta uscendo abbastanza bene, per dire bene del tutto. No, volevo dire a Pompugno che sta uscendo basso confronto agli altri giorni, non lo so. Antonio, chi sei? Pomponio! Sì, io passo la radio che stai scappando. E io? No, ho capri due. Sì, a te che può fare il microfono, Gianni. Sono troppo vicino forse. Perché non ho giocato un attimo con un corpo. Perché se ti lo sono di compensato e apri il microfono. Perché nel palco bisogna fare il microfono. Capri, non parlare, manda solo portante. No, c'è una portante sotto. No, non è portante, riprova Capri un attimo. C'è un fischiettino sotto, si sente, pare che c'è qualche rientro di alternata o qualcosa. No, vabbè, c'è una portante, vabbè, è Santiago 7. Non ti arrivano più 20 il Capri, ma manco lo solleva il freno. Ho proprio detto che senti con l'innesco. Poi se contava qualcosa magari sarà effettivamente così, non lo so. No, anch'io c'è una specie, non è neanche importante. Un segnale muto però che va da 0 sino a 5 e poi riscende e risale. O forse era più fare qualche piccola propagazione, tutto lì. Niente, il mio segnale com'è? Va bene, sì, la radio già, devo toccare qualcosa, perché sono un po' senza utilizzarlo, e dunque sicuramente devo regolare, o va bene così? 9 più 25, segnale radio 5. Senza nessun rumore di sottofondo? E io vabbè, faccio più arrivo. Allora, Gianni li stava anche tutti e due, ma anche loro, Gianni doppio rumore, ma anche loro ci hanno da fare. So che la preparazione, lo so, io non ho toccato nulla, come se l'ho lasciato io la bibita riscalda pure l'apparato. No, Capri, tutto a posto a te, no, e c'è questo interferenza portante, boh, che oscilla. Quanto ti arriva a te, Daniel? No, vabbè, in quest'ultimo passo c'è 9,25 abbondanti. Che da parte mia, Ossi, è 9,25 sul Galaxy. Anche tu, Daniel, 9,25, più o meno lo stesso segnale di costo, cioè di Antonello di, come si chiama, Racuda. Gianni, come ti arrivo a te io? Prova. Ora, 1, 2, 3, prova radio. 9,25. Tu sei, prova un po' tu già. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quasi 9,30. K. Cioè, va bene, noi siamo abbastanza forti di quanti, la possiamo fare così tranquillo. E a voi, volevo dire a Capri se ci stava pensando per quell'altro apparato che aveva. E come il Midland te lo posso dare quello là perché lo parli, se non vuoi e a quello tipo glielo posso anche dare, che mi chiedevo per lì. No, non le voglio di Midland, no. Certo, e pensando chi sto, buscami un altro, anche a poco prezzo. Ascolta, togliami la curiosità, diciamo, per il Midland che stai usando adesso, l'Alan 44, alla fine, non lasciando perdere la trasmissione, no? Che alla fine si uguagliano alla stessa portata, no? Come ricezione, giusto? Solo che uno trasmette e l'altro no, uno va in ricezione e l'altro va in ricezione e trasmissione. Alla fine come tipologia sono uguali come frequente, giusto? O correggimi se sbaglio. A me l'altro mi sembra come ricezione molto più fedele, perché ho fatto già la prova, come ricezione, guarda, è molto più loriaio, ma è molto più forte, hai capito, come ricezione. Ma fai la cortesia, se hai il tempo, io ho detto anche a Claudio lo stesso, o da se capita l'occasione uno all'altro. Se tu mi dici che riesci a provare qualcosa a un giusto prezzo, per carità non dico che io debba essere regalato, ma un giusto prezzo, qualità prezzo, ecco. Qualità prezzo, se ti viene l'occasione, conosci qualcosa, non lo so. Se mi fai questa cortesia e mi fai sapere, giustamente sente impegno e si ti fa piacere, tutto lì. Certo, come io sono convinto che un altro a 200 euro te lo procuro, qui lui me l'ha venduto a prezzo più alto, perché non so cosa ci ha messo dentro, infatti io c'ho anche come si chiama, che ci hanno montato call option al dentro, però preciso io te lo procuro anche a 200. Carlo, domani no. Dopo domani lo telefono, poi ne avrei fatto due di questi, ma l'altro lo va pure, hai capito? Adesso te lo sto prendendo perché ce n'è un altro preciso, ed è una persona molto seria, infatti l'ho visto che è impeccabile. Un 200 euro si becca, mia, come un 200 euro. Ma fai la cortesia, se ti viene bene, diciamo, mi garantisci che fai questa ricerca, sempre ripeto, penso che tu già lo conosci, dunque non ti costa niente. Se mi fai questa cortesia, poi mi fai sapere, d'accordo? Metto un nodo da qualche parte, una firma, sì? Ma come fai tranquillo che io, hai capito, se mi prendo, diciamo, un po', mi partono a me, te lo faccio aprire. Hai capito, ce ne sono tanti di... Però non è che io vado proprio all'occasione da voi e che ho mano messa la roba, perché devo fare avere un apparato, hai capito, buono come quello che ho io, però ce ne abbia un braccio che non è toccato, hai capito, la persona seri come quello che è stato mandato a me. E poi c'ho anche un altro indirizzo di questo Lois di Continente che mi aveva mandato il Sommercamp, i baracchini a Mediterraneo. Quello c'è questa signora che ha un sacco di roba, bisogna che lo telefoni a noi, magari domani mattina lo potrei anche chiamare, poi ti faccio sapere. Ok, scusate, questo ping pong è innanzitutto a Roberto Pagato, avanti Roberto. Ma di che cosa stai parlando, di Edge? 757 o per forza? No, siamo di un ricevitore, siccome ho fatto la domanda per radioascolto, mi sarebbe piaciuto avere un ricevitore. Poi giustamente Claudio mi ha detto, e condivido anch'io, per un ricevitore dice ti prendi un ricevitore e ci trasmettono direttamente, non 140. Ma siccome io, a me mi va bene uno e l'altro, l'importante è che riceva, capito? Poi per trasmettere mi va bene, cioè il Galaxy, il 60, l'Ala 68 va. Sono più che sufficienti per me. Un apparato per fare radioascolto da delle attrette in HF, tutto lì. Mi è piaciuto avere uno di quelli, poi metto che ci sono altri radioamatori che vanno oltre quelle frequenze, ma penso anche che lì dovrebbe essere abbastanza frequentata come modulazioni, ecco, un ricevitore per fare radioascolto. No, allora dipende da cosa vuoi ascoltare. Se vuoi ascoltare l'HF ti conviene comprarti un 140, addirittura anche meglio un 440, costa un po' di più, però c'è una differenza, un abisso tra uno e l'altro come ricezione. 440 lo paghi dai 350 euro in su, diciamo, se è perfetto lo puoi pagare anche 400 euro. 140 netto lì fuori 100 euro, 80 euro di differenza, però è un po' troppo rumoroso. E secondo me conviene prenderti un ricevitore, ma tu specifichi l'HF, vuoi ascoltare o vuoi ascoltare in generale? Guarda, per UEV ce l'ho, non è che sia il massimo, so se ce l'hai presente, cioè il Kenwood DRZ1, ma fa diverse frequenze, a me va bene da 0 a 30 in HF con bande laterali, ecco, io sono più che tranquillo, e penso che mi confermi anche tu che bene o male lì qualcosa per forza l'ascolti, ecco, tutto lì, sono di molte pretese. Ah, vabbè, io sono un grande appassionato del radioascolto, c'ho ricevitore, anche qualcuno carino, diciamo, l'ultimo che sono preso è l'ICR7000 della ICOM, che all'epoca era uno, diciamo, dei migliori apparati che erano in circolazione, adesso c'è magari qualcosa di meglio, dovevi spendere molto, ma molto di più per avere di meglio. C'ho la R3000 che fa da 0 a 2036 e più c'è un altro, la R2000 che quello fa fino da... da 0 stesso a 1300 o 1500, non mi ricordo, mentre il coso fa da 25 a 2000 e spiccioli di CR7000. Però diciamo la cosa migliore è avere, se ti interessa quella banda di frequenza, sicuramente a livello di prestazionale è un ricevitore delicato, è molto meglio mettersi una 440, diciamo, se lavora con la di frequenze sicuramente va molto meglio di prendere uno scanner che ti fa tutte le bande, diciamo, perché c'è un sistema di, diciamo, di componentistica specifico per quelle frequenze, per cui lavora molto meglio a livello di ascolto, sicuramente segnali distanti riesci a tirarli fuori molto meglio rispetto a un ricevitore. Però non lo so, valuta bene, perché a quel punto ti compri, esistono anche il solo ricevitore, il TS, allora c'era, non mi ricordo come modello era, comunque uguale identico al 140, però è solo un ricevitore. A quel punto ti buschi direttamente un 140, a 250 euro lo trovi un 140, che a 300 euro diciamo se lo vuoi nuovo. Però se vuoi ascoltare un po' meglio, perché il 140 è molto molto rumoroso come apparato, un po' più di un baracchino in parole povera, a livello di ricezione, mentre qua 40 è stato si sente parecchio, a livello molto più silenzioso, diciamo un po' più selettivo, mi sembra che sia la doppia conversione, non mi ricordo come sarà, ti dà qualche informazione più chiara. Però se sei appassionato di ascolto, io mi avrei preso un ricevitore, spendere un pochettino di più, però ti fa un ricevitore che ti permette di fare tutto quanto, e ascolti anche altre frequenze che magari non sono le solite HF. Quello sono pienamente d'accordo, infatti sto valutando, io due tempo fa Capri mi ha fatto vedere il suo modello, che non mi ricordo che modello sia, adesso te lo dice Capri 2, ed era, se non sbaglio, della IAESU, e me l'ha fatto vedere, bellino esteticamente, mi è piaciuto, e ho visto che era anche un'ottima ricezione. Dillo tu Capri che modello è, perché io non me lo ricordo. Il mio è un ricevitore della IAESU, un FRG100, e capito, è bellino, io diciamo non me l'avevo comprato perché già avevo un catalogo della Marcucci tantissimi anni fa e mi ero appassionato sia di quello sia dell'ICOM 728, che poi mi ho comprato anche quello, di tutta collezione, perché prima non me lo potevo permettere, era con Claudio, però diciamo che con un pezzo di filo è sensibilissimo, riceve, io ti voglio far avere se vuoi un ricevitore una roba del genere, se no sto dicendo Roberto anche un, come si chiama, come con 400, un 440 lo prendi, buon, bellissimo, hai capito, di tutti, però hai capito, il ricevitore dice dal ventore, ma cosa? Valuta tu. E da Giorgiani adesso io ho trovato un numero di questo tipo, se mi entra in mano, e così non dico se lo va. Ok, riprendi già un attimo. Sì, vabbè. Grazie, Buscia, per comprare. Ehi già, io sono un anno che sto mettendo a Cito, porca accidente, proprio per avere, qui sulla, per conto mio, sulla mia piccola stazioncina, e sono più che contento, ma ripeto, mi accontento di poco, guarda, alla fine, per avere 3-4 apparati che puoi modulare, non, da parte mia, per il mio modo di vedere, attenzione, mi basta sia il Galaxy che il Midland, sono più che contento. Mi batto un ricevitore e io sono a postissimo, guarda, pensare di usare la trasmettere non mi interessa, perché ho notato, ti faccio un esempio stupido, con quegli apparati lì in trasmissione nella 27 dà abbastanza problemi in tutti i canali, perché adesso un esempio, adesso in questo momento no, ma quando uso il Midland e sono quegli apparati accesi che sono in trasmissione, guarda, dall'1 al canale 34, perché ha 34 canali, 68, tutto displato, non c'è un canale dove non sento trasmissioni con quegli apparati lì, dunque a me andare a disturbare no, non mi piace, non mi interessa, e va bene ricevere e poi sfrutto gli altri per trasmettere, e io sono più che contento così, guarda. Stavo scherzando, Antonio, ci mancherebbe altro. ma io l'ho venduto proprio perché disturbava una famiglia che c'era di fronte, il telefono e coso, per avere grattacapi, questo ha fatto l'articolo, eccetera, eccetera. E l'ho venduto per quello, l'ho tenuto pochissimo io, mia. Ma quello che chiama, avanti. Infatti si vuole con l'attacco, Antonio. No, uguale, già, ce l'ho in macchina, me l'ho messo nel portacenere, vabbè, portacenere, io ormai è diventato portaspiccioli, ce l'ho detto, apri l'occasione che sono in macchina, che ci incontriamo, tieni, e via, è già pronto lì, è dentro il portaspiccioli in macchina, nella panda. Ma la sorte, perché non si trovano quegli attacchi, è un casino, non ce ne va a confusare. Ma non ti preoccupare, quello è tuo, è lì, appena è che ci incontriamo è tuo. Direttamente in macchina, non ti preoccupare, l'ho messo lì proprio per non dimenticarmene, così che ha già capito l'occasione di incontrarci di nuovo, te lo sto dando immediatamente. Stavo dicendo, c'è uno, se non sbaglio, di sottofondo che sta chiamando. Infatti chi chiama? Certo, non sento nessuno. Aspetta un attimino, avanti. Infatti chi chiama sul 21? Non sta uscendo il radio. Piccolo piccolo, poi è sparito, poi c'è questa portanza strana, aumenta da 0 a 5 e poi se ne va, è da poco a fare, sicuramente ha qualche propagazione, però uno piccolo lo sentivo, e parlando in italiano, sicuramente qualche camionista. Portate qua, arrivate a Santiago Nuovo, sentivo anche io questo piccolino in italiano, però forse è in propagazione. Attenzione, canale 21, chi vuole entrare un attimino di bianco, vediamo forse riusciamo a sentirlo, avanti. Non ti capisco quello che sta dicendo, non lo so, o fai qualcosa se è troppo basso. Che è questo? Questo è il 95 la portante. Senti, chi è l'altro? Vuoi entrare? Entra, avanti. Vedete questa portantina? Sì, va e viene, si aumenta leggermente, sino a 5 e poi se ne va. O è vicino a me, perché qua arriva 9 abbondante, 95, dai. Va bene, Gianni Capri è andato via o c'è ancora? Sono qui, sto guardando roba per rompere per altro meglio, riprendete e poi mi riaffaccio. Ehi, pappa pappa. Ma che pompone, pompo ci sei. Comunque Antonello Maracuda, no guarda, adesso su internet che stavo dando uno sguardo, su eBay c'è un annuncio, non parliamo di Beazza, c'è un bel ricevitore, diciamo che quel prezzo si può anche prendere, esteticamente sembra anche buono, questo qua da 100 kg è tra 1850 MHz della ICOM, l'ICR100, lo stanno dando 210 euro. È un buon prezzo, però non c'è, diciamo, vabbè scusami, io sono un pochettino ignorante su internet, per quel poco che l'ho usato, c'è quello stemma top quality che dà un po' di garanzia, oppure di quelli che ce li hanno messi in vendita così da un privato, ecco, in poche parole, quello stemma, vero? Non stiamo parlando eBay cosa, quello dove ci sono le aste, eBay annuncia tipo l'occasione subito, che parli direttamente con la persona, c'è il numero di telefono, lo telefono e ti metti d'accordo, come possiamo vendere noi una qualunque cosa sull'occasione o su qualunque altre cose. Io da qua al annuncio non ho comprato, c'è di buono che parli direttamente con la persona, anziché entrare in asta, un sacco di giri, se ti metti d'accordo glielo puoi mandare anche contrassegno, io acquistato però conosco gente che ha acquistato. Normalmente poi è più semplice acquistare, anche se anziché fare pagamenti strani, ti metti d'accordo, dici mandamelo contrassegno e non anticipi neanche niente, a meno che questo non ti mandi una scatola vuota dentro, ma non penso che quello è un po' più. Mentre su eBay classico lì dovevi stare un po' attento, perché c'era gente che faceva delle cose strane, anche se ultimamente ho notato che ce ne sono sempre di meno, dopo che ci sono questi controlli della finanza, polizia postale, eccetera, eccetera, ci stanno un po' più cauti prima di fare delle cose strane. Perché adesso riescono a rintracciarti col discorso, prima te ne andavi in un'agenzia di quelle di Netpoint, quindi connettevi lì, adesso non lo puoi neanche più fare perché è obbligatorio per legge dare i documenti prima di connettersi, per cui se tu dai indirizzi loffi o cose strane sei reperibile. E quello sono pienamente d'accordo, sai cos'è il discorso? Sì, però poi trovi delle occasioni, trovi delle persone oneste, la mia paura sinceramente, paghi e poi ti arriva, o ti arriva in condizioni pessime, o ti arriva per niente, con qualche mazzoncino come hai detto tu. Poi se ci sono problemi a rispedire un casino, se questo poi è una persona onesta, quello è sempre il problema. Sei sempre dai, con rischio di essere preso per i fondelli. Sarebbe bello, mi per dire, qualcuno che ha avuto esperienza con persone serie che già ha acquistato, come sta, come tocca Capri 2, qualche rivenditore, cosa del genere, qualche persona affidata, ecco, almeno se porca miseria che stai pagando e ti dà l'apparecchio, diciamo, in ottime condizioni, è tutto lì. Sì, sicuramente, se c'è il contatto diretto, l'ideale va a trovarlo in Sardegna, alla Roma, tu su subito ci sono le regioni, ti scegli la regione, gli metti il prezzo, quello che vuoi tu. Io ho capitato di acquistare da subito diverse cose, ma anche con Sardegna mi sono messo d'accordo, sono andato, l'ho visto e me lo sono preso. Però ti ripeto, forse sono stato più fortunato, un po' più attento, non lo so. L'unico dubbio, l'ultimo apparato che ho acquistato era l'ICOM, quello grosso, diciamo, un apparato grosso, il ricevitore, lì avevo dei dubbi, non voglio essere razzista, però questo era di Napoli, però era un laboratorio, mi ha detto, ci siamo parlati diverse volte prima di acquistarlo, eccetera eccetera, mi ha ospitato a casa sua, mi ha detto vieni qua, se tu non ti sfidi, perché ho detto guarda, ho detto molto francamente, io dei napoletani, almeno di quei pochi che ho conosciuto, qualcuno non c'ha una buona reputazione, sono sempre lui, non ti preoccupare, ti ospito qua, vieni qua, ti faccio vedere che non è tutto così, eccetera, eccetera, me l'ha mandato contrassegno, me l'ha mandato garantito, tutto quanto, mi ha detto, qualunque problema me lo rispedisci, questo è un laboratorio, perché io avevo amici di lì a Napoli, ho detto, vai a vedere, avvicinati, a ver se esiste veramente, e c'era effettivamente questo laboratorio, è stata una persona gentilissima, ho acquistato decine di cose io da internet, guarda avanti, non ti voglio rifare l'elenco, ma non ci sono meno di 12-15 cose che ho acquistato tramite internet. Purtroppo qualcuno so che è stato sfortunato, ha avuto delle cose, devi stare un po' attento, capire l'effettivo valore delle cose, perché quando il prezzo è troppo basso qualcosa di strano c'è, per cui devi starci un po' attento a quello lì e poi valutare bene la situazione quando telefoni, vedi la persona che tipo è, diciamo, quando uno sta a contatto con le persone un pochettino di esperienza se l'è fatta, io per il tipo di lavoro mio molte persone riesco dal naso a più tale, sono abbastanza grandetto, per cui anche lì sono avvantaggiato. Dai, scusate per la battutina, avanti Gianni. Mi sta volendo la biocco, cattolo, mi rimango un attimino in corrisi, vediamo se mi riprendo, tanto continuate, poi già busso io quando ho finito a fare il lavoretto qua, speriamo che mi risvegli. Mi sa che hai mangiato troppo già. Troppo mangiato, quello non lo nego. Questo è importante, comunque sicuramente sei ancora in fase di digestione, dunque sta faticando un po' troppo il tuo organismo a digerire tutta la roba che hai mangiato. Brutto segno Gianni. Pompugno veramente Gianni Dromme. No, adesso anzi, grazie a Dio sono bello asilo, dai, non ho fatto le ore piccole perché ieri sono rimasto a casa. Mentre se fossi andato da qualche altra parte sarei stato mezzo addormentato. Presente, non ho neanche riprogettato dopo pranzo, non ne ho sentito la necessità perché dormito in abbondanza, dai, anche se sei abituato a starti presto, sveglia ce l'hai dentro il corpo, dentro il cervello, per cui mi sveglio, però l'ho coricato nel letto, di nuovo chiuso gli occhi e mi sono dato un'altra oretta di riposo, dai. Ok, per cui mi sento anche abbastanza asilo anche io. Ah, infatti io già non mi faccio più fregare, già mangio il giusto e così no, non sto male tutto il giorno, ecco, qualche banana stanotte mi porto, qualche clementino, durante la notte ti viene un po' di fame col vai che vieni e dunque già rimango in forma alla fine. Sono qui, stavo cucinando. E perché sei così basso? Non stai cucinando? Basso? Aspetta un attimo. C'hai ragione, aspetta un attimo. Ma c'è il segnale di Gianni Capri, me Gianni Capri, di Gianni W. Poi a stare attenti, non te ne accorgi neanche che ti sciogli l'apparato. Cosa volevo dire? Sono discreto, che tipo di lavoro ti occupi tu? Di cosa fai? Fa una prima raccuda. Niente, adesso sono diversi lavori, ho fatto per 20 anni immobiliere. Per 20 anni e purtroppo semissimo come la situazione, dunque fare tonacchino quando ce n'è, non è sempre, adesso stanotte, adesso sono terza settimana che mi hanno chiamato al Bluestar per fare il parcheggiatore e poi ogni tanto mi chiama questo signore per dei traslochi, che anche alla fin fine quello lì è il mio lavoro, mi sta intraprendendo così, avevo 18 anni. Dunque un po' qua, un po' là sono, però il mio lavoro mobiliere, magazziniere, autista, ecco, il mio vero lavoro è quello. Poi se vincere purtroppo a Sassari la fame si taglia a fette, dunque no, non c'è più niente in quell'ambito lì. Poi sono sempre alla ricerca. Meglio Vanessa. Adesso sei tornato tu, dai. Cosa ti è successo? Cioè, non hai mutato l'antenna? No, era una direttiva, mi sono dimenticato di avere cambiato il cavetto. L'avevo ricaricato un giorno. Ah, sono con la 50. Già stai uscendo, non ti devi preoccupare. Comunque, Antonello, vada qua, io ho già tantissimi amici, probabilmente li conosci tanti, non è che siete tantissimi. Per questioni di sport e anche per altre questioni ci sono tante persone che conosco, bravissima gente. Io sì, già sono abbastanza persone tranquille, quando non bevono, poi quando bevono sclerano. Ehi, siamo pochini, 6.250 abitanti, dai, già non sono pochi. Sì, già lo so. Poi c'ho mia zia, lo stesso che lui, lei è di Ossi, vive a Sassari da sempre, però è di origine ossese, diciamo, è nata a Ossi, ha fatto l'infanzia a Ossi, secondo me la conoscerà, vabbè, grandicella. C'ha lo stesso cognome di quella persona che vende, i carciuffi a Coso, vicino a Piazza Le Segni, non so se lo conosci. Che già vabbè, ha diverse macchine. Prendiamo dai, dovrebbe essere conoscere un fiorino bianco con l'ombrellone, e ho capito, se è lui, ho capito che stai dicendo. Sì, già, l'ho fatto acquistare da poco un furgone grande, un daily, l'ho fatto trovare un'occasione. Conosco bene tutta la famiglia, a me è venuto ieri proprio in officina, mi porta sempre il carciofo, è generosissimo, molte volte non so come contraccambiare quando viene piccole saldature o cose del genere, non paga niente perché sa che devo per forza ricambiare il lavoro. Poi per questione di sport conosco tutti gli amici che giocano sia con l'Ossi 2001 che con l'Ossese, da Gianni Manca, Luciano Bianco, eccetera eccetera. Sì, tutte le persone che sono d'abito sportivo, sì, te le conosco. Adesso mi sono abbassato un pochino, molto sono sceso di segnale e Barracuda. Qua qui sei 9-10 da parte mia, col Galaxy e con la mezz'onda che sto utilizzando, 9-10 da parte mia. Aspetta un attimino, che ho fatto una cosettina, adesso ritorno come l'ho sempre al solito. Che adesso quant'è? Adesso sei quasi un pelino a 9.30. Che cacchio, 9.10 a 9.30, ho tirato fuori 5 watt in più. Così mi stai segnando il Galaxy, è di 9.10 pieno, è stato metri modulati a regolare qualcosa leggermente e piano piano si è mossa l'indicatore, 9.30 sì, va da parte mia, così mi stai indicando il Galaxy, Faccio vedere quanto c'ho, sarà su 25. Là. Volevo dire a Pomponio, cosa stai preparando di buono, oggi stai facendo il cuoco, così è. Sì, pennette a salmone sto facendo, Giovanni si è a casa. Ma allora pronto, non com'è? Ne ho trovato uno a Roma, in Germania, 171 euro, preciso identico a quello che ho io. Ma tramite internet già? E per quello com'è che non mi fido, hai capito? Quindi uno che c'è uno di telefono che in Italia chiama, sono sempre guardando, continuante. Ce ne sono un sacco, ce ne sono, tutto stato lattati, rimani, nessuno vuole prendere, lasciatemi guardare. Ma cosa stai cercando, Carlo? Non ho capito, che apparato stai cercando? Sì, ha tirato più di tanto su internet, se chiami a quella persona che hai detto tu, che ne aveva un altro, quella signora, non so che, a che persona ti stavi riferendo, chiami a loro se ti viene bene e non ti stai di più ad assidarti al baracchino, al computer. E qui ho comprato i Sommercamp e ho trovato delle occasioni, lasciami guardare, qualche cosa devo trovare, uno che ci sia il numero di telefono per parlarci telefonicamente, perciò con 200 euro lo compri per me. Ma cosa, sono 80? No, Antonio, è un ricevitore, no, non un trasmettitore, un ricevitore per fare radioascolto. Cos'era, Antonio, quello della cosa, della Kemudu, TS5000, quello che faceva la 030, ricevitore? No, prima ti ho ricevuto trasmettitore, come ti ho detto io, mamma mia, se la scena, se ne... Dentro di quanti ne vuoi Kemudu, 80, 440, 140, quanti ne vuoi trovi? Un FT7B, un FT250, ma comprate uno di quelli e sei tranquillo. Ma cosa me ne faccio alla fine? Niente da trasmettere, sto trasmettendo con questo, trasmetto con video, ma cosa me ne faccio di un altro ricevitore, un altro trasmettitore? Tanto uso questi, poi disturbano quegli apparati, disturbano anche i modula, per esempio se c'è gente che c'ha il Midland che sa benissimo che assorbe qualsiasi mondezza, che comunque mi piace, mi è sempre piaciuto, mi sono stati i miei primi baracchini Midland, e ce l'ho per quello. Comunque se ci sono persone che modulano, hanno apparati così, io mi attacco a quello, disturbo in altri canali, no? Non voglio stare a rompere le palle, scusami la gola. Non mi piace arrivare a rompere le palle a nessuno, Antone. Ho questi due, cosa me ne faccio di un altro da trasmettere? La uso per, mi piace un ricevitore tranquillo e pacifico, mi va bene così. Tanto mi, solo nella 27 puoi modulare, poi nelle altre frequenze sai benissimo che non si può. Non me ne frega niente fare il pirata, non me ne affutti proprio nulla. Mi basta solo divertirmi così, io sono più che contento anche di poco. Ne ho altri due da modulare, dunque, cosa me ne faccio di un altro? Peggio per te, Gianni ha fatto una scelta, e si è trovato bene, sto dicendo peggio per te. Quindi non so cosa dirti. E io non è questo il mouse. Io te lo sto dicendo, pigliati un apparecchio come ti sto dicendo io e dai tuoi amici. Non vuoi capire, Antonio, peggio per te, vediamo ti dica io. Io ce l'ho, guarda, te lo sto dicendo, io ce l'ho. E non lo vendo, ma se mi danno 500-600 euro, tu già lo sai, che c'è un sacco di persone appresso per questo baracchino qui, quindi, baracchino, diciamo che sia uno, quello che è, ma c'è un sacco di gente appresso, quindi fai come ti dico io, le fai 13, lascia perdere le altre cazzate di dire, quando ti fai una partita 27, dico 100 euro per dire che fanno 40 canali, e quindi una cosa che c'hai per dire, la paghi 300 euro, massimo facciamo 350, poi c'hai tutto, e come avendo la camera letto, soggiorno e cucina, pigliati quella cosa lì e vedrai che ti trovi bene. Gianni si è trovato bene, Gianni, sì. Gianni come sta uscendo e si è trovato bene anche lui. Posso dire la mia, Antonello Barracuda? Sì, no, io ascolto e valuto, non ti preoccupare, sei liberissimo di dire quello che ti senti di dire. Allora, il discorso è questo qua. Ti dico prima di tutto una cosa, se tu c'hai un apparato di quel tipo che stiamo parlando, tipo l'Intec 44, l'Intec 14 o l'Intec 68, stiamo parlando di quella marca che conosciamo tutti, sicuramente creai meno problemi con quell'apparato che uscendo con quelle altri apparati che stai nominando tu, tipo Midland e cose del genere. Molto, molto meno, perché sono apparati molto più selettivi, con sistemi di trasmissione molto più sofisticati, per cui a livello di emissioni spurie, armoniche, eccetera, eccetera, ne avrai molto, ma molto di meno. I problemi CDF sono manipolati o manomessi, solo da quello. Per il resto è molto più stretta la larghezza di banda, per cui l'emissione è molto più pulita rispetto a un modulatore di un baracchino normale che manda tante di quelle porcherie che non hai idea, a meno che non sia di quelli ultima generazione con una PLL eccetera eccetera, però sono sordi, magari sordi no, non riescono a uscire di niente, di radio non escono di niente. Poi tu mi dirai, non me li uso in trasmissione, però me li uso come ricevitore, perché io gli stessi apparati me li utilizzo come ricevitore, non è detto che tu l'apparato trasmettente lo devi utilizzare solo per trasmettere. E sicuramente un apparato dedicato da 0 a 30 va meglio che prendere un ricevitore che ti fa da 0 a 2000 MHz, riesce a andare molto meglio in ricezione su quella banda dedicata. E ho detto tutto. Poi il discorso degli subito te l'ho già detto, non è vero, a meno che non hai creato problemi, non c'hai problemi all'interno dell'apparato, te lo garantisco al 100%, perché sennò lo vediamo strumentalmente, ti faccio vedere un apparato di qualunque livello amatoriale confrontato con qualunque baracchino di qualunque livello, l'emissione è molto ma molto più pulita ed esente da problemi che potrebbero nascere in un baracchino. Ok, poi dipende da cosa devi ascoltare. Io un ricevitore che ti ho detto mi fa tutta l'arco delle frequenze, poi ne ho uno dedicato per gli 8808, un altro ricevitore, poi c'è un altro dedicato per le V, un altro dedicato per altri tipi di frequenze, adesso ne voglio mettere un altro che mi faccia solo le U, dedicato per le U, anziché spostando ogni volta, mi sto dedicando ai ricevitori per ogni tipo di frequenza, perché io sono un grande appassionato di ricezione in generale della radio. e basta, ho detto tutto. Poi un'altra cosa che volevo dirti, tu stai aspettando la licenza, ti presenta, non è più obbligatorio già da qualche anno la licenza di radioascolto, può ascoltare chiunque, a meno che tu non vuoi il codice di SWL, a quel punto ti danno un foglio, diciamo, da filo scritto, dove ti dicono il tuo nome attivo, il mio per dire SWL 127 CA, e ti danno un nome. Io l'ho fatto per questo, neanche di bellezza, ma ho messo una cornicetta e mi ha dato a cattestazione, però chiunque può ascoltare le frequenze libere senza ne bisogno nessuna autorizzazione, e ti rilascio il microfono. No, per carità, entro il ragionamento lo fa una piega, infatti mi stai facendo pensare. No, per carità, io ho detto prima di riprendere le cose, sento diverse campane, poi faccio un'addizione e vediamo cosa ne esce fuori. No, per carità, non ti sto dando per niente torto, ma sono io di, per come sono fatto io, mi accontento, guarda, di poco, la verità è veramente di poco, basti che c'è il mio bianco angolino e va bene uguale, però ripeto, come discorso che tu hai affrontato non fa una piega, vediamo un po', dai, ci penso, no? Non è male. Mi stai facendo pensare, sì, poi ho fatto la domanda anche per essere in regola, e sapevo che bisognava farla, e sono tranquillo anche io, questo piccolo, chiamiamolo, attentato per gli ascolto, dai, sono più che tranquillo, ecco, tutto lì, è bello anche avere queste piccole positive, sei un pochettino più a termini di legge, dai, mettiamola in quel caso lì, sono che ti bussano a casa, sei tranquillo e pacifico, ecco, niente di particolare. No, ci penso a quello che mi hai detto, per carità, ripeto, non fa una piega. Vediamo un po' da cosa ne esce fuori. Il discorso è quello lì. Tieni presente che un apparato di quel genere che abbiamo nominato, come ho detto prima, parte da 250 euro su. Un baracchino discreto lo paghi sui 100-150 euro e non è neanche avvicinabile a quella roba lì. Spendi un po' di più, però hai molto molto di più, come, e poi più aumenti di prezzo, e poi c'è sempre un apparato che in un qualunque momento te lo vuoi rivendere, lo rivendi, perché sono super ricercati, sia il 14 che ancora più il 44 o il 68, sono apparati che sono degli assegni circolari, quanto l'hai pagato lo puoi rivendere benissimo, se non di più. Eccolo, già è vero, comunque mai andando, vabbè, hanno la loro età, comunque già se ne trovano pezzi di ricambio, sì. A voglia, ce ne sono centinaia e centinaia in giro di questi apparati, qua a Sassari li contiamo a decine, poi figurati cosa c'è, in continente, al continente c'è ancora il, come si chiama, il distributore, anche se sono apparati fuori produzione da diversi anni, c'è Bianconi, un tecnico super specializzato che c'ha, se ne può fare quanti ne vuoi di apparati, l'altro non sono componenti super sofisticati, puoi dire, come i processori che ci sono adesso di nuova generazione, fanno tutto col computer, quelli sono ancora di vecchia generazione, ci sono ancora degli integrati, diciamo, abbastanza reperibili, anche finali lo stesso li trovi facilmente, non è una cosa complicata, diciamo, ci vuole attrezzatura più che altro per sistemare. Perfetto, qua io ho un alimentatore da diavolo scritto, 8 ampere, già riesce a alimentare un apparato del genere, non credo, vero? 8 ampere. Allora, ricezione possono bastarti, aspetta, te lo dico subito, un secondino lì. Ricezione probabilmente un paio di ampere ti bastano, in trasmissione se gli dai piena potenza ci vogliono almeno 15 ampere continui. Ecco, dunque, quell'apparato lì può lavorare, correggimi se sbaglio, anche se lo regoli a 3 ampere, lavora benissimo anche a 3 ampere, oppure devi dare quella potenza sua in modo da non sfruttarlo, non so. Questo apparato come, perché non l'ho mai utilizzato, comunque 3 ampere lo puoi pilotare anche tranquillamente con 3 ampere. Allora, aspetta un attimino, il discorso è questo, è tutto rapportato alla tensione, watt e ampere è lo stesso discorso della tensione, se tu gli vuoi dare un watt, lo vuoi far lavorare a un watt, 12, come si chiama la potenza, adesso mi calcolo la potenza, V fratto come si chiama, assorbimento, era V per I ti dà la cosa, c'è la formula matematica, tu in base a quella formula riesci a ricavare l'assorbimento, più sali potenza e più, naturalmente è un peccato far andare un watt con quell'apparato lì, perché un watt potrebbe assorbirti un ampere, a 2 watt te ne assorbe 2, così via aumentando, appena potenza a 50 watt, il 440 per dire, in AM da 50 watt ti assorbe 50 diviso 12, ti sta assorbendo quanti ampere saranno. Presente che in banda laterale in FM ti dà 100 watt, 100 diviso 12 ci vogliono 18 ampere per farlo andare a piena potenza. Poi dipende, se lo fai andare anche al minimo, anziché uscire con 5 watt e sì con 2 watt, te la puoi fare anche con un alimentatore piccolo. Ma tu devi appena per sbaglio, vedi, 140 c'hai lo drive della potenza talmente sensibile, solo tu che appena come sollevi, o ti parte il fusibile dell'alimentatore, se è protetto, se no lo sciogli, gli spacchi lo spazio. È quello che devo stare attento, no? Vabbè. 2, 1 da 3 ampere per carità, il mio primo alimentatore della Visa e poi questo dell'Intec da 6 da 8 ampere. Vabbè, dai. Già mi va bene anche con 8 ampere, cerco di non. Già sono abbastanza attento in queste piccole. In queste piccole manovre, la verità, già è tutto sempre sotto controllo. Capri! Ok, ho trovato uno di questi come quello che sto usando adesso, 450 euro e c'è a vivere, e poi 400, ma sono più che europea a comprare, neanche me, però anche quelli sono da non perdere occasione, questo da 400 da non perdere. Certo, è importante, ma lo sanno, è sempre fuori in Italia quello, no? O c'è qualche garanzia lì vicino all'inserzione? Allora, questo da a Sassari. Questo è a Sassari, o no? Se non vorrei 400 euro che sia quello che ho comprato io, aspetta che guardo per vedere un attimino. Allora, vediamo se prendo il pulsante, vediamo un po'. Continua. E avanti la portante. Pompo. Pomponio, lascia la pentola. No, i tiri lo stanno vendendo. E tiro a quello che ho io. Ai tiri. Ancora la gola. C'è anche il numero di telefono. Via. Non è lì. E lei allora non deve vendere, 400 euro, compra come questo che sto uscendo dalle c'ho io, Emi. Non è da perdere, mia, anche a me, non ti cerco più nulla. E allora, penna ne hai lì? Penna si è a fa dare il numero di telefono così, sì. Sì, ma computer non ne hai lì? Ma no, io sono vecchio per queste cose già, c'ho ancora il giradischi. No, niente computer ancora. Allora, scusate, ci vediamo a te, sì o no, a quadrato. Meno fai. Aspetta, che prendo la pena il foglio. Vabbè. Ma scusa, Antonello, scusa, Gianni, che cosa stai cercando? Io non ho capito. Ma sì, uno come questo ne ho trovato, ai tiri in vendita. Le tiro identico al mio. Ma quanto ha preso? Quanto? Scrivi, 340. 41. 41. 44 e chiama immediatamente. E quanto viene quello già? 600 euro. 400 come? E 200 euro, 250 euro sai come vengono a pigliarmi il mio, e si è fatta veloce. Ma con la macchina vedi con mano, te lo dico io. Aspetta Antonio, aspetta, non ho preso manco la penna, adesso l'ho presa, aspetta un attimo, ecco, cosa stavi dicendo Pompo? Ho detto se venite appigliati da avverti da smante e su al quadrato. Poi stavo dicendo a Gianni dell'apparecchio, ho detto 400 euro è troppo, ho detto la verità, se dice il spettitore dopo 2,50 vengono ancora da più del mio, di 80. Questo ne vuole 400 e 300 euro di tipo quello che sto usando io. Roberto, non ne dici del prezzo? Ma non so se è questo qua, i 4,40 lo puoi trovare da 300 euro in su, diciamo il prezzo massimo è 450 euro se è fiammante, se sta uscendo dal negozio, che ne trovi ben pochi, perché chi ce l'ha così nuovo, io ne ho visto pochissimi, 4,40, diciamo il valore suo è intorno ai 400 euro, 380-400 euro, solamente bisogna vedere se è stato manometto, l'apparato, se è stato rovinato, ce ne trovano anche meno, però quando li trovi troppo bassi, o sono brutti esteticamente, o sono stati manomessi, o hanno avuto problemino la parla, ho già qualche problemino. 140 lo trovi dagli 80 a 100 euro di meno. Il 680 un pochettino meno del 440 lo trovi. Questo c'è la stessa, guardando pure sembra, hai capito, che qui non stiamo comprando niente da fuori, si può fare il salto in macchina, non vede, hai capito, e se lo prova, penso che a Cavello non sia un ignorante, che vede se una cosa funziona bene o funziona male. Il numero di telefono preso hai? Hai, dimmi tutto. Oh, guardate un attimo, scusate un attimo. Un attimino, allora 340... 41 41 443. Aspetta, a posto, registrato. Prova a chiamarlo se ce l'ha, però sbrigati, mica da prendere, secondo me. C'è stato un break avanti. Poi oh, c'è la carta, dice un 140, sono 240 con l'MC60 li stanno vendendo 350 euro. Se è buono da prendere, solo il microfono quanto costa, lo prendi quello MC60? MC60 lo paghi da 90 euro in su, sembra esteticamente buono qua come microfono, la parata, se guardo la foto, questo è di sorso. MC60 costa 175. Lo prendi nuovo? Sì, ma io sto parlando usato. Allora qua il 140 esteticamente in fotografia, aspetta, chi è questo? Se c'è anche il deve essere quel radioamatore amico di Claudio eccetera eccetera, perché al solito c'è lui, sembrerebbe lui guardando la stazione, perché ricorda la sua stazione, non si vede tutta, però si vede l'apparato, questo 140 sembra buono comunque. Aspetta che provo a chiamare, dai, continuate, poi ti faccio sapere, vedere se risponde cosa dice. Ok, dille anche a darti le MC60 e capito, può dire con la tira oltre all'apparato. È perfetto, d'accordo, 440, giusto? È il modello. E preciso a questo è che sto mutuando. Prova a chiamare, dai, continuate, poi mi avvicino e ti faccio sapere. Ok, Roberto, riprendi. Sto guardando se c'è qua la carta di Sardegna, ce ne sono diversi, c'è addirittura uno che sta prendendo il 740 tutto a pizzi, dalle venturine a tutti gli interruttori, tutte le schede, i filtri, aspetta un attimino. Già, ma si non brugliare in pala da rapito. Ma dov'è? Pompo? C'è un 430, 10430, più scheda, FM, più filtri, 350 euro. Sì, voglio vedere, capito, io questo l'ho preso perché se una persona lo conoscevo, capitato si sarebbe rovinato, e niente, capito, giusto per... visto che funziona, mi accontento, capito, giusto per averlo, perché a me mi andava anche benissimo il baracchino, però poi mi sgridano che non vogliono modulare quei baracchini, anche se mi ho messo il commutatore e mi attirano, sono una calamita, lo prego. E io poi se mi mancano, poi se mi mancano, hai capito? Ok, adesso sta provando a chiamare Antonello e vediamo un po', che teneci fuori, e collata anche assieme all'apparato, riprendi? C'è un 450 che era in evoluzione del 440, 450 euro, poi c'è un altro, cos'è? Il prezzo mi sembra buono, 400 euro, c'è l'apparecchio buono. C'è un TS680. Della 0-60 mega, che si continua, perfetto funzionante, potenza 200 W in base di dura gola, che ha portato l'antenna T130, alimentatore drive a 30 A, l'antenna per altro 27 mega, questo lo fanno 650 euro, chi sei mancati? Quanto è? No, è troppo, 650 euro è troppo, alimentatore a 30 A, microfono, raffarma, non c'è neanche il MC60, questo è troppo. Boh, quando lo trovi a 400 euro, se è buono, si può prendere, oltre devi stare molto attento, a meno che non sia fiammante. Ok, ma fiammante, diciamo, hai capito, non è che lo trovi mai, qualcuno ce l'ha sempre, capito, ma c'è gente anche che li tiene immacolati, anche, e magari se vuole realizzare i soldi per fare un altro acquisto, molte volte lo mette a un prezzo accettabile, poi vediamo un po' a vedere. Gianluca Peruma, ci sei? Ci sono, ma sto facendo roba, mi sto ascoltando, ti riprendo dopo. Antonello vuoi non passare in forza? No, no, ce ne sono occasioni, però bisogna vedere, anche se qui ci hanno buttato le mani dentro, nella parecchio, quello è molto importante. Diciamo che come si chiama deve essere senza essere toccato, hai capito? Questo che sto usando, c'è cioè l'apparecchio perfetto, hai capito, e non ho niente da dire, non ho niente da dire, non mi permetto manco, solo di pulirlo e basta, hai capito, ogni giorno, perché la polvere, molte volte non è, hai capito, oggi lo pulisci, domani non lo pulisci, la prendo, ma vedi, però quando inizia a esserci due o tre giorni, poi la polvere si vede anche, e quindi gli apparecchi vanno tenuti conto, io li tengo conto, hai capito, infatti mi sono tutti quelli che ho comprato, diciamo, da prima erano immacolati, quando c'era qualche fessilia che ti ho detto di quel rintocco, ma può rimanere anche così, hai capito, però diciamo la polvere ne vuole pure, quando c'è polvere vuole pulito. Esattamente, allora il discorso di questo tipo di apparati o lo conosci, nel senso sai chi è che l'ha usato eccetera eccetera, e puoi andare a scatola chiusa, te lo fa provare tutto quanto, o se no se lo prendi da gente che non conosci, la cosa migliore è avere qualche scheda di controllo, di manutenzione effettuata da qualche laboratorio sicuro, qualche fattura, qualcosa del genere, almeno sarebbe ancora meglio, a quel caso lo puoi pagare qualche spiccioletto in più il baracchino. Quello che gli ha mandato il foglio, dice Vittore, che stavo parlando per tanti, questo mi ha dato tanto di foglio, sono anche chi gli aveva messo questa roba, perché questa roba è il ricevitore di Aili, cioè, però questo ci ha aggiunto lo parente, lo sopra, mi ha fatto vedere anche, ci ha preparato tutti, come si chiama, non usare una virgola, hai capito, ormai ce l'ho, hai capito, magari ho detto, lo vendo pure, lo compro un'altra cosa, però le sto facendo, capito, forma per una cosa, se tratta con questo signore qui, diciamo, come stavi dicendo tu, Robert, invece di modulare col baracchino, modula con una cosa bella, capito, oppure lo può utilizzare per ascoltare, che io l'ho provato, questo non sgarra una virgola, hai capito, poi ognuno ne fa l'uso che vuole. Sempre l'uso, bisogna stare sempre attenti e rispettando le regole. Io non sono mai uscito fuori come si chiama, che già dall'epoca c'erano amici miei con la 45, ho detto, ma tu già sei appassionato, basta mettere il transverter, non sono un pirata io ho detto, muovo, ascolto, ne faccio tanto in HF, mi piace, qualche volta mi ho dato un genere, beh, ci spostiamo solo in canale 45, nel canale questi sono gli unici sconfinamenti che si fanno, oppure lo troviamo in FM, in USB, questi sono gli unici, però permettermi a entrare in altre cose, assolutamente no, perché proprio modulo col cuore, io mi piacerebbe, capito, conoscere nuove, però no, ogni cosa vuole, c'ha un limite, e vuole le sue licenze, le autorizzazioni sue e le patenti sue, come se mi metta a guidare una macchina senza patente, non l'ho mai fatto, Robbe, mai, invece amici miei guidavano senza patente, e la macchina del padre, mai l'ho fatto, e quindi sono gli apparati, ripresi. D'accordo, purtroppo molte volte c'è gente che li utilizza per altri scopi, dai, lasciamo stare, non diciamo nient'altro. Vediamo se Antonello Pompugno c'è ancora, Antonello ci sei ancora? Sto facendo roba con un uomo Giovanna, con la figlia, con mia nipote qua, col computer. E volevo che poi rientro, va? Vediamo se Barracuda è rientrata, avanti Barracuda. Ti stavo dicendo, ho una curiosità, Robbe, ma questa roba mi piace, la questo apparato, no? Sta scherzando, no? Non esiste, non esiste, infatti, anche se qualcuno li abbina, Antonello è riuscito a metterci il microfono, l'MB+5 col coso, con un USB, con l'eco, ho sentito di tutto, dai, ma lasciamo perdere, dai, non è la necessità questo tipo di apparato per fare quella così. Che, dimmi una cosa, quei due cose che mi hai dato, quelle due radio che mi hai dato Gianni, io non le ho neanche provate, ma sono funzionanti? Detto di sì, io quando me l'ha dato questo l'attaccato che stava funzionando, quello che anni di farlo, io ma non lo sapevo bene. E l'altro ce l'avevo io nella prima Golf che avevo, l'avevo montato nella prima Golf, è andata alla grande, e poi l'avevo messo in garage, e penso che funzioni, non sono stati mai toccati da garage, non toccatemi nessuno. No, sono veramente belli, li ho fatti vedere a qualche persona, li avevi visto, io sono appassionato. Diciamo, non ho avuto modo di farti vedere le altre che sono di radio, però quelle sono belle. Poi l'ha venuto Claudio, me ne ha dato anche altre due, anzi tre me ne ha dato. Una simile a quella che mi hai lasciato tu, quella da casa, e due portatili. E quello con le mini valvole, piccola? Sì, lo so, sono belle, te lo sto dicendo veramente. Poi perché mi sono piaciuto le radio con la grossa che peserà 6 kg, quanto pesa quella? E poi quella è delle prime procuratore, cioè con le bravi, ma io accorgo, oh, la stata funzionante, perché ho già tu che collezione, ma proprio come c'è in garage, mentre l'altra all'epoca stava dell'alloggiamento per la prima Golf, per la prima Golf, che me l'aveva passata a Napoli quella macchina, e l'avevo messa lì perché dopo non la fa mai autoradio, non l'aveva messa, ma che c'era l'FM e andava alla grande. Hai capito? E poi l'avevo messo in garage, avevo cambiato macchina, avevo pigliato la Corolla 75 e lo stereo, allora e lo volevamo coi nastri, e hai capito? No, non le ha toccate mai nessuno, erano sullo scaffale che c'è, di quegli scaffali in lamiera, hai capito? Non le ha toccate mai nessuno, le funzionano erano la grande, hai capito? Perché gente non ce n'è in garage, io e mio figlio, diciamo, ma mio figlio non ne frega nulla, hai capito, di radio e altri. L'altro giorno c'avevo un collo che era nella 156 a cassette, c'era questo, glielo avevo regalato, no? Si è puntato, è bello quello che lo vuoi, prendilo. Gli altri non li ha tutti perché ce li avevo dentro una scatola, infatti non li, quelli non li avrei date, e avevo pensato subito di darle a te. No, funzionano, vai tranquillo, vabbè, hai capito, io non li ho neanche provate, non so perché, perché non c'ho luce in garage, non li ho manco portati a casa, se no con l'alimentatore l'avrei anche potuto l'altro parlante, perché c'ho qualche altro parlante anche, come avevo detto la Volvo li ho staccati, che poi non mi ne va nulla di quegli altri parlanti, e niente, provali che sicuramente fanno, funzionano. Ci sono già, ho chiamato. Non l'ha detto? Presidente, è ora di amatore. Ora di amatore dice che l'apparato è perfetto, fa lineato un po' di tempo fa, non so quanto tempo ha speso. Comunque questo qua dice ce l'è bambino di sorso e poi l'aveva acquistato lui. Siccome dice si è acquistato altri apparati, ne ha a bizzeffa, dice che un pochettino lì c'è il malincuore a darlo, ma dice non c'è posto, si è preso altri apparati un pochettino più superiore, più dice che è perfetto senza nessun problema, col microfono originale mandato. E appena disponibile di chiamarlo, che non c'è nessun problema, che mi avvicinavo e me lo faceva vedere acceso e tutto quanto, perché c'è la stazione, dunque non c'è nessunissimo problema. Ok, ma il microfono quale saranno? Quello da tavolo, confermi? Questo, microfono da palmo, mi ha detto, microfono da palmo. Allora no, fatti dare finale qualche che per il prezzo allora. E io pensavo di avere amici 60, vabbè, cosa ne dici tu? Il discorso è questo qua, normalmente lo prendono col suo microfono originale perché le MC60 lo paghi dai 90 euro in su, diciamo, chi ce l'ha se lo tiene perché lo utilizza anche su apparati anche più sofisticati perché è un buonissimo microfono, vedi un po' se te ne tira qualcosa di prezzo, diciamo. La persona che hai nominato tu credo anche di conoscerla, di capire chi sia, però io se vuoi un consiglio a Antonello chiedi consiglio a Claudio, che si conoscono tra di loro e sanno, siccome Claudio li ha dico, quasi tutti passati quegli apparati lì, sa pure di che quante mani hanno girato, perché di questa la persona che ha nominato lui di sorso ce n'è un altro qua in vendita, un altro 140 lo sta vendendo, per cui bisogna capire che apparati sono, se sono stati toccati o manomessi, solo quello bisogna capire, andare a provarli e vedere tutto quanto, che l'apparato funzioni bene su tutte le bande, che tenga la potenza, che non abbia avuto delle cose strane, diciamo 400 euro non è poco, ma diciamo se l'apparato è fiammante, io non l'ho visto, potrebbe anche prendersi, magari tirando fuori una ventina di euro, vedi un po' tu. 40 sicuramente non c'ha confronto col 140, per cui è inutile risparmiare magari 70 euro col 140 e c'hai due apparati completamente diversi. perché una è una 500 e l'altra è diciamo una croma, per fare il confronto di macchine Fiat. Poi se vuoi macchine superiori devi andare Mercedes, BMW e Audi. Questo è il rapporto, parliamo tra 140 e 440. Una è un'utilitaria e l'altra è una berlina di 440. Parliamo sempre di apparati amatoriali economici. Poi se vogliamo meglio la CNR di meglio, però su questo tipo di bande dove siamo noi adesso vanno in modo eccesso, si cagano gli apparati che costano 7-8 volte di più. Piccolo finalmente l'accordimento mi faceva 3,90 di più, non voleva scendere. Mi ha detto perché l'apparato è buono, è perfetto, è tutto quello che farà via e farà va, in poche parole, che non c'ha nessunissimo problema. Mi ha detto così, di meno non scendeva. Invece nel caso di chiamarlo, appena è, poi uno si avvicina e vede un po', poi dice di meno, dice no, non lo va assolutamente. Dare lo deve dare, dice, però di meno no. Ma l'alimentatore ti dà anche? No, no, no, niente alimentatore. L'alimentatore la verità non ne ha neanche parlato. Sì, no, c'è un alimentatore, io qui sono attaccato a un 40 ampermi, questo quindi ma solo assorbe 20 ampermi quando parli. Io non so. Infatti, infatti poco fa stiamo parlando. Io passo alla barracuda. Dunque, sono le lampadine li accendono, per quello pienamente d'accordo. Comunque vediamo, sì, anche quello che ha detto. Lui è giusto, bisogna chiedere perché Claudio già gliene sono passati in mano, dunque. Meglio sempre chiedere ulteriori informazioni. Non gli ho fretta la verità, perché non mi piace essere fregato. Dunque no, non c'è nessun problema, già valuto parola per parola, comunque. Dice questo, già è vicino e via, poi chiedo a Claudio e vedo un po' cosa mi dice lui, dai, non c'è nessun problema. E lui poi Claudio, perché non ce n'è altro, che Claudio conosce tutti i tipi di apparati, perché lui vende, compra e le c'è in mente, ho capito, hai, quindi alla grande ti può consigliare. Ok, ok, riprendi. No, più che altro gli apparati non è tanto riconoscere gli apparati, lui conosce proprio l'apparato fisicamente, nel senso che almeno il 70-80% dei 140 e dei 440 che hanno circolato Sassari e zone limitrofe sono passati nelle sue mani, per cui ti potrà dire qualcosa di più preciso, ti dice sì questo apparato ce l'aveva questo, gli ha fatto quell'altro, perché te lo garantisco, ne conosce tanti di questi, ne ha visto tantissimi di quelli, poi magari se gli parli di altri generi di apparati c'è qualcun altro ti può dare delle informazioni più precise, però su questi due tipi di apparati, 680, 430, 440, 140, 450, lui ne ha avuto a bizzeffe, ne ha avuto decine e decine e ti dice qualcosa di sicuro, tu magari gli fai il nome di quella persona e ti dice sì, questo ce l'avevo io, oppure l'aveva questo, l'ha passato a quello e sei più sicuro. Se poi lui ti dice sì, l'apparato è buono, prendilo, sei sicuro che ti fa... e che ti ha dato una buona informazione. Oh signori, io da parte mia devo interrompere, ci sono già diverse ore qua in radio e vado da un'altra parte, dai. Mi guardo un po' di televisione, vi saluto tutti, di nuovo rinnovo gli auguri a tutti gli amici qua in ascolto, quelli che ho parlato stasera, cuoretti da parte mia. Ciao Gianni, ciao l'altro Gianni se è ancora sveglio, ciao Antonello dei Barracuda, eventualmente a tutti gli altri amici, cuoretti da parte mia, ciao ciao. Niente, su quella televisione c'è Copperfield, Devil, se ti piace un po' di magia, dai, c'è quella in televisione, poi altro non ho visto, perché lo sta guardando mia moglie. Comunque va bene, buon proseguimento, grazie per gli auguri, ci sentiamo alle prossime, vai Capris. Sì, perfetto, ciao, allora vabbè, salutoni anche al Correa di nuovo e buon proseguimento delle feste, se capita che passo a Sassari già vengo a prendere la mano di persona, stato solo in ferie. Ok, di nuovo ho capito, si tratta di comprare anche una roba buona, perché si prendono anche fregature, capito, di vederlo, io diciamo, l'ho acquistato perché sapevo di chi era, e capito, quindi però se l'ha acquistato da una persona che non conosco, avrei dovuto farlo fare a gente, perché non è a me che sono molto esperto in questi apparati, sia un baracchino tanto quale, hai capito, infatti anche Roberto mi ha dato dei consigli, questo serve per questo, hai capito, per queste belle cose, però le vuoi dire che è un ottimo apparato? Mia moglie già si sente, infatti c'è una bella differenza a confronto agli altri, la verità è tutta un'altra minestra, poco da dire. Infatti io sto guardando, poi pensi, qui c'è un computer acceso, importante, sono oltre che sono qui, l'hai capito. Però peccato che non ti dia il microfono da tavolo, perché il microfono è molto bello, io sono con il microfono lì e ti dico che è bello. Spero che sei abbastanza contento, dai, dell'acquisto. Ma sperando che non parcheggi tutta la tua collezione, ecco, alla fine. Quello no, ce li ho attaccati, c'ho il commutatore, ce li ho attaccati, ce li ho sempre vicini, i miei migliori ce li ho sempre vicini, capito? Manco uno di quelli se li muove, di quelli a 23, quelli sono, poi c'è un bel Roix che mi ha regalato Claudio, e poi volevo far mettere a posto il Galaxy, perché c'è, come si chiama, c'ha dei problemi al locale finale, ma quello con calma poi già ciò che devo mettere, adesso lo lasciamo passare le feste, hai capito? E la testa tiro per i baracchini io la tolgo, soprattutto per i baracchini, quindi a casa, però se non sono tanti mi sono fermato, poi avevo comprato altri due microfoni da base, due Turner, un più tre e un più due, e i miei ce li ho e vogliono tutti, come erano fermi, in garage trovati, ma sono questi che vanno alla grande, adesso qui ci ho abbinato il microfono suo, come niente, rimane questo per modulare, però ogni tanto modulo anche con gli altri. Quello sì, ma ti volevo dire, se voi ti do un indirizzo, questo lo conosci anche tu, se voi siete amati il Galaxy, c'è una persona valida a Sassari che gli mette le mani addosso e lo fa rinascere. Lo conosco già, che stai dicendo, quando facevo i miei dischi, portavo quella cosa che avevamo in orchestra, Vittorio stai dicendo. Sì signore, proprio lui, io ho provato il mio e... Adesso scusa, sto mangiando un clementino, aspetta che lo inghiotto, no scusami, e mi sono trovato veramente bene, poi confermami da parte tua adesso che c'è una cosa un pochettino più superiore, come la, diciamo, la mia radio, se va bene, e me la gli ha messo lui le mani addosso. No, ma la radio è Super 5, il segnale, in questo va, guardi sui 9.30, però siamo vicini, però sei tranquillo che c'è alla grande, c'è alla grande perché è un ottimo apparato, hai capito, niente da dire, hai capito, se mi guardano qui ce ne sono altri, ce ne sono tantissimi, però se sono in continente, come bisogna vedere se hanno messo mani dentro, hai capito, cioè ci sono le persone oneste, le persone che... Poi sono anche delle persone, come stava dicendo Roberto, che tipo Napoli non bisogna fidarsi più di tanto. Dani, lo sai che cosa ti dico? Che sto facendo più bene Antonello di radio di te. Sì, boh, non so perché non te lo dicono. Io ti sento un bel strano di radio. Regola quella radio, abbassala perché è troppo forte. Sì, ma è a posto, vicino. Ok, ah, vero, mi quasi io te l'abbasso. Quello, tutto lì. E lei che ti piace? Sì, diciamo che degli apparati troppo secco contro me, però diciamo non guasta, lascia vedere qui cosa sembra lo stesso, e qui ce ne sono, hai capito, qui sto parlando, anche come si chiama questo di Siracusa, quello che vede, questo è uno 450 euro. Però come va di tutto, perché poi devi comprare anche l'alimentatore, mi. L'alimentatore 20 ampere si assorbe, 20 ampere quello che lo posso garantire. Infatti, aspetta che attacco, ecco, via, sì, qui c'è una pratica che trema abbastanza, voglia, giustamente ci vuole, l'alimentatore, se no sempre un buco nell'acqua, tutto lì, comunque là vedo che sei abbastanza contento del nuovo arrivato nella tua stazione, dai, so dove abiti, comunque già c'è una persona che si addormenta abbastanza presto, entro, porto via, e pure domani mattina, da su cono. Era un po' così perché doveva arrivare Marco che l'abbiamo mandato col padrino al cinema a vedere un film, doveva arrivare, lo sa che poi non lo sentivo, era un casino, dai. Non c'è nessun problema, dai. Va benissimo, poi io faccio un attimino di bianco che mi prendo altri due clementini che mi sta venendo fame, mi sono mangiato due arance a Washington e basta, tutto lì, per asciugare il minuto. Davvero, c'è quel asciutonzio di vino che ti secca un po' la bocca, dunque hai bisogno di qualcosa di dolce, capito? Vero, è vero. E Gianni ha bevuto, Gianni. Oh, niente, sì, bevuto, ho mangiato qualcosa poco, però ho bevuto poco, proprio questa roba. E la stessa cosa quando scendo poi, prenderò dei clementini e basta, assoluta, poi domani se quella roba abbiamo fatto con quella carta a cielo, pangiata, ho fatto bene, capito? La carne, meno male, abbiamo cucinato tutta, la sola cosa fatta con le olive, io ho mangiato, però mi sono abbuffato di altre cose, di atteri, di quelle cose lì che ne sono molto ghiotte, e come si chiama, già le calorie ce le hanno queste cose, però adesso diciamo che mi sento meno pesante, un paio di quei clementini, hai capito, qualche frutta, hai capito, e mi rimetto in un guisetto, poi domani una minestrina e poi ci mangiamo gli antipasti, perché abbiamo comprato anche ieri sera del prosciutto crudo e un bel po' di fette me le mangiate, quello salato, capito, queste cose già, però è troppo, perché diciamo, perché siamo pure, perché diciamo sembriamo, perché è giorno di festa che ci vogliamo buttare dentro chissà che cosa, e allora l'organismo non li sente. Ma come? Quanto l'ha chiuso? È andato a mangiarsi due clementini. Chi è rimasto? Vabbè, la roba che aveva chiuso, te lo vende. La roba che ha chiuso, ne ho dovuto la roba. No, la roba che ha chiuso. Ok, perfetto, non riesco a vedere questo, a vedere. Ok, ora non mi manco già a vedere quanto ne voglio, un attimino. Ce ne sono tanti già, ce ne sono, hai capito, la gente questa volta la vuole vendere. Ehi, ma il prezzo è quello sui 400 che ero. Sto pensando, già io faccio colletti là, servo da mangiare a Marco, tutto quanto, e poi è buona. Allora già, se io sono in ferie, domani se ci sentiamo ancora, lo rimango un po' in radio, è capitato alla televisione, sono neanche con la CET, ok, con il carrello, se faccio proprio non mi voglio dormire a presto, sarò con voi per la sua gira a gira, mamma mia, ok, Antonella ci sei, già sta chiudendo. Ciao Capriucci, ciao, salutami anche Antonello, va. Fatto. Antonio, ci sei? E vogliamo, ma tutti sono più che io, ma i colleghi, a dove bussa quando rientri? Io invece l'ho mangiato bene, grazie a Dio. ho smontato due giorni perché ho fatto già il giorno prima. Ho incassato i soldi, quindi mi sono ubriacato la verità si vecchia, ma non ho fatto male a nessuno. Ero a casa, mi sono svegliato tutto all'ubriacato. Grazie, grazie. A me è passato un po' così. 80.000 euro, sono contento, la verità. Sono contento per quello. Allora, ma cosa da qui? Sono un lavoro. Allora, sono dicevo per campare. È venuto un annetto, là, non di più. Ti hanno già pagato, Antonio. Vabbè, già, dimmi. Mi hanno detto che erano gelati. E a quello di usare tutti i pagati sono. Mi hai fatto vedere l'assegno, l'ho ritirato. T'ha pagato. E gli dice che non ne aveva, adesso debbero di buffi. Cioè io quando ce li avevo, ti preoccupo, c'era l'appartamento lì, Alghero. Ma ha pagato se lui si costava l'appartamento di Cadere dove abita lui. Gli è convenuto, non ti preoccupare. Va bene, va andata bene. Là. Andà bene, io sono qua con mia nipotina, ci sentiamo dopo là, a limite. Sì, io ho detto fai le sfighe che se non ti farà semma. Che le sfighe, hai già ritirato la sedia, sta bene, non hai capito, mi è tranquillo rimasto. Adesso mi sentiamo la casa, la campagna, anche la più la campagna. Quindi sono a posto. Poi ti farà caso in campagna. D'accordo, d'accordo. Fai girare, fai girare. Io che prendo il bello. Dai, riprendo io. Neanche io vado in cuore di tiraga, cioè c'è gente a casa, se ci sentiamo dopo. Ciao Daniele, alle prossime ci sentiamo. Ciao. Un festeggiamento, avanti Gianni. Okay, ciao Daniele, buon correttino e alle prossimine, come sta dicendo Antonello. No, non sono contento Antonello, se ti trovi in questa situazione, però diciamo, tenta una Madonna del Divano da Cosma o sapete sempre. Ecco, per tentare ciò io. Mi sentiamo la campagna, mi vado a vivere io, hai capito? Ma sto pagando io la campagna della famiglia, e sono di allora, io me ne vado a abitare, e sono tranquillo. E questa me l'affitto. Sì, già va bene, come? No, poi sono venuto a vedere anche qualche laboratorio, hai capito? Mi devi stare... Però, è stato come te ne avrei aperto, comunque... Diciamo che c'è da fare i soldi. No, per laboratorio, ma tu stai scherzando, non ne apro più laboratorio per nessuno io. Sono tranquillo io, senza fare nulla a nessuno. Non te avrei 10 euro, poi magari mi hai capito. Fai favore a uno che vieni così e magari ti fa pezzi. No, no, non esiste. Ma vado direttamente in pensione, sono tranquillo. Chi vuole fare riparazione se ne fa. Non mi interessa nulla, anche per impattare anche la TV, quello che è, non mi vado mica a stampare dal tetto, no. Non saranno, ormai i tempi sono buzzi, purtroppo, quindi non ci vorrà più niente, non è più l'era di fare antenne e fare riparazione, non ne vale più la pena. E perché anche la gente, secondo me, non ha per sempre i bisogni, si rifugia se ce la compra nuovo, è più infatti ho quel televisore adesso, quello piatto, come così, se si guarderebbe, ma con aprile si può. Se tutti fanno in giro nei cassonetti qua vicino a me, il martedì, anche oggi è la giornata giusta, oggi è lunedì, se tutti fanno giro stanotte trovi un sacco di televisori buttati nei cassonetti, nuovi diamanti, che sto dicendo. Vabbè, adesso vi tutti quanti cambiamo le misure, tutto quanto, hanno una nuova vita nuova. Ci siete da sotto. Sì, tu non ti buttavano in Europa, adesso mi sembra che ti buttavano ben poche cose di già, con la crisi che c'è io, diciamo, è proprio in casa lì, c'è la roba, un pronto collato e niente, non so se come quelli che abbiamo mobili qui, là, va bene così, tanti, mi è toccato dalla parte di noi, cioè, nei suoi giorni bellissimi, tutti i lei, noi in una mese, tutta questa roba l'ho regalata, capito, c'è la gente di casa, questo, come ti ho, non voglio niente, ho detto lasciamo solo arredato una parte che dell'appartamento che ho fatto a mio figlio, perché la casa è stata lì in due, e basta, qui non ci sta altro perché la casa è piccola, non posso metterci altro, riprendi a me. Quindi vieni tu. Però non è quello. No, io ho la stessa cosa, guarda. Questa cosa ballata, già l'hai visto. Assumito me, sto nel libro degli sintetizzatori, amplificatori, delle piastre, quello che è. Mi faccio una camera a letto come si deve, non voglio sapere un cazzo di altra roba. Se è brutta così una cameretta. Allora, sembra un dettaglio, sembra già l'hai visto, non mi interessa più niente. Sono andato in questa casa, già mi forse che c'è la mia età, si può ricordare, ti ricordi già quei libri che già aveva, nel come si chiama, anche la radio, ma il titolo li avevi già. C'era la mia sorella, così, ha detto matrimoniale con la radio interna. Lo metto lì dentro già, quindi lo so. E chi c'è anche al supermercato? Dalle 4.90 alle 5.90. Sì, hai capito. Ma diciamo, quando si risparmia è più scadente come ogni cosa, così è già. Copiato già. Ho detto, quando si risparmia sul pellet non è più scadente il prodotto. Appa, ti sporca di più la stufa. Quello che devi comprare è quello di coso, come si chiama? Lasciami pensare. È comunque di un albero particolare, che quello che costa di più, però è più buono, te l'avevo già detto. Quello di faggio, così mi hai detto. Caffa, non mi veniva la parola, è di faggio. Questa volta ho usato anche la raccolta, ma questa volta come sembra che come si chiama? A torcere il cappellino già, a pesa niente, tanto con la prova devo caricare il carrello e anche l'abitato il cappellino e quello non già, se non me l'ho dato. Comprato. E sono andato prima che la materiale, ma non so quanto c'ero lì prima di caricare la roba, più di un'ora dentro. Da dove? Il cappellino non c'era lì. Allora, non so se lo peggia, e costruo, quindi ti dimentare nel cacchio. Vicino alle CDA siamo andati. Ah, beh, avete comprato materiale. Il pellet, sto facendo memoria, è vicino di Roma, la Ronca. E vicino lì siamo andati già. Non è vicino alle CDA al seno, ma è male se possono andare a fare in culo. Non mi sembra, lo sai dove già, vicino, lo pensavo vicino a Fiori, più è possibile lì. Cosa c'è lì? E se non conosce ma siamo andati adesso, guarda che hai detto, non aspetta, non ci sono più. E dove sembra che sono andato lì? Ma come si chiama di materiale, però non anche materiale edile questi, ma è proprio grande. Oh, non so chi è, non ce l'ho presente. Ok, diciamo, lì Barbara mi ha fatto andare con la macchina. E proprio alla presa Agnetta siamo andati. A presa Agnetta. Sì, ma non lo so, ma la fatta che ti dai papere. Vicino ha detto mia moglie, dove faccio da una papperetta, la casa igienica. Ah, ho capito. Ho capito dov'è, non è Capolino però. Ho capito. E l'avete preso lì, a quanto era? Beh, lo so, è un 4.90, così, dicendo, tu hai fatto tanto, io e Ottavio. E c'è questo problema, cioè, ma non adesso, ma adesso ce lo fate prendere con la Mercedes. Io non ce l'avevo la prendo. E prima lì nel mese era stato nel mese di primi di ottobre già. E quindi ne avete comprato un mese? No, io sono stato con la pompa, sono andato, abbiamo caricato i miei carrelli appendici e poi anche dentro nell'abitacolo. Però dopo poi ci riandato, si vede che era consumato, ci riandato via poi. Che ha pagato, ma se funziona bene, se brucia bene. È dovuto anche, il prezzo è dovuto anche alle calorie che mantiene il pellet. Almeno giù, almeno la qui Silvestro, buonasera, buon Natale anche a te. Sono con KP2, non mi piace quel microfono. Non va bene per quanto riguarda adesso, così non male. Casomai con la modifica non mi dico, ho provato con Claudio, ho provato con Vulcano, mi ha detto che non stavo facendo, va bene. Ok, dai, non potrei mettere un altro medio, lo vediamo un po' adesso, non puoi, lo metterò. Ok, Gianni, lo bene il segnale, va. Va bene. Io forse ce l'ho un microfono, va bene lì, mi bisogna che controlli. Ce l'hai, ora dimmi quanto vuoi, c'è un farlo, aspetta un attimino, sono efficiente. Dove sei, Gian? Il mouse, lo trovi dove si aspetta. Avvicina casa tu? Ripeti capì. No, qui arriva, è aperto per squillante, che microfono sta usando già? Sono diventato, no, ero le rotatori e quindi non è che andava bene. Ciao KP2, ben sentito, con l'età, buon Natale, avanti. Ok, buon Natale anche a te, Silve, qui KP2, che stiamo parlando sempre con KP2, e mi arrivi bene la radio, diciamo, e dimmi che microfono stai usando, certo. C'è Marco che c'è via Sassari, dopo c'è Gigi e dopo Gigi per casa. E ti ascolto bene, con l'eco in certi punti ti ascolto molto bene, quando trovi il punto giusto arrivi proprio forte. Ho fatto la curva, dove sei la farmacia? Pagato. Oh, già va bene, io avuto. Che se lì avrei messo un CT e un Lafayette. Arrivi un bel forte. Senza ira ira, arrivi 9.5 con questa apparecchio. Toccato Giampa. Appaga, appaga Giampa. Sentiamo allora, buona serata. E anche per domani, buon divertimento. Ciao ciao. Ciao Giampa, buona.